Gli speciali di Radio 24. E buongiorno a tutti da Deborah Rosciani. Questa mattina inevitabilmente abbiamo cancellato Ma che cos'è quest'estate, che era su temi completamente diversi, per dare spazio al dramma che si sta consumando nel centro Italia e che richiama la memoria di tutti gli italiani, drammi che si sono già consumati purtroppo negli ultimi anni. Un paese che è abituato a tragedie di questo tipo, purtroppo abbiamo avuto questo forte terremoto che nella notte ha colpito l'Italia centrale provocando morti e feriti. Naturalmente adesso non possiamo completamente sbilanciarci nell'esercizio del conteggio delle vittime, che sono già troppe, avete sentito poco fa, adesso ve lo riproporremo anche il sindaco di Amatrice, tra i paesi appunto più colpiti. Una scossa di magnitudo 6.0 che si è registrata alle 3.36 di questa notte, con epicentro vicino a Cumuli in provincia di Rieti e con epicentro a soli 4 chilometri di profondità, ma questo non cambia appunto l'intensità del sisma che ha provocato appunto questa situazione di profonda emergenza, perché poi è stata già paragonata appunto al terremoto dell'Aquila di qualche anno fa, ma qualcuno ha già detto lì si trattava di un capoluogo di regione appunto, e quindi era anche paradossalmente più facile intervenire in questo caso. Nel caso di questa notte si tratta di un sisma che va a colpire zone che sono disseminate su più frazioni, quindi la grandissima difficoltà anche per le forze dell'ordine, per le squadre di emergenza appunto, di intervenire. Una seconda scossa di magnitudo 5.4 è stata poi registrata alle 4.33, lo raccontava poco fa Daniele Biacchessi, con epicentro tra Norcia, provincia di Perugia, e Castel Sant'Angelo sul Nera, che invece è provincia di Macerata, quindi tre regioni contemporaneamente colpite. Crolli sono stati segnalati ad Arquata del Tronto, dove qui a quanto pare due vittime sono state accertate. Si tratterebbe appunto di una coppia di anziane, poi vittime segnalate ad Accumoli, dove ci sarebbe stato almeno un morto. C'è questa situazione che riguarda una famiglia di quattro persone, due genitori e due bambini piccoli, sotto le macerie che non darebbero segni di vita, secondo quanto ha testimoniato appunto il sindaco Stefano Petrucci. Noi abbiamo sentito poco fa che ad Amatrice c'è un collega del Sole 24 Ore, Luca Vinci Guerra, c'è poi un altro nostro corrispondente, Daniele Morini, che si sta spostando su queste aree. Adesso la nostra Sylvie Boccaletti sta provando a ricontattarli, ma potete immaginare quanto sia difficile anche per i nostri colleghi poter raggiungere questi posti e poterci dare appunto una ricostruzione puntuale di quanto sta accadendo. Nel frattempo, ovviamente, anche se è molto presto, inevitabilmente i palazzi della politica hanno dovuto mobilitarsi per coordinare anche le squadre degli interventi. Elisabetta Fiorito da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno Deborah. Come possiamo rassicurare i radioascoltatori, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi segue da Palazzo Chigi gli sviluppi della situazione sul forte sisma che si è registrato stanotte. Abbiamo sentito in varie parti del centro d'Italia, e lo garantisce la Protezione Civile. Oltretutto ad Amatrice sono in arrivo mezzi speciali, e nel Lazio si è mosso anche il Presidente della Regione Nicola Zingaretti, e che dopo essersi coordinato con la Protezione Civile è in auto verso i comuni maggiormente colpiti dal sisma. Quello che però sarà difficile sia per la politica sia per la Protezione Civile è il fatto che il sisma ha colpito diverse regioni, quindi si devono muovere tre regioni, esatto, insieme, Deborah: Umbria, Marche e Lazio. Una cosa che si è sentita anche a Roma: noi questa notte ci siamo svegliati qui a Roma perché si è avvertita la scossa, quindi è stato molto molto forte, e tutta la città era in allarme per capire che cosa fosse successo. Poi ovviamente sta tornando l'incubo del 1997, il famoso sisma delle Marche, quel settembre maledetto, sì. E vediamo come in questo momento proprio il centro d'Italia sia ormai oggetto di sciami sismici. Ma ricordiamo quello lì che poi avvenne in quella notte del 97, quando praticamente a Serravalle di Chienti, Macerata, fu registrata la scossa e circa 7.000 persone rimasero senza casa. Adesso bisogna capire intanto quante vittime ci sono, perché in questi casi, lo sai Deborah, si parte da poche vittime, però purtroppo poi man mano che passano le ore potrebbero esserci delle vittime, addirittura si sa che ci sono, che c'è gente sotto le macerie, e poi quali sono i danni che già sappiamo sono assolutamente ingenti. Deborah. Sì, anche perché appunto proprio come dicevo c'è già stato questo paragone con il sisma dell'Aquila, ma il tema è che qua parliamo di zone che sono formate fondamentalmente da frazioni, quindi non sono corpi unici di città, quindi molto più difficile naturalmente raggiungere tutte le aree. Questo è un terremoto di magnitudo importante, un terremoto superficiale che ha provocato uno scuotimento rilevante, il valore paragonabile al sisma dell'Aquila. Questa è proprio la prima dichiarazione, il primo bilancio del capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, che peraltro ha già avuto modo questa mattina presto di fare un incontro stampa a margine del comitato operativo nella sede della Protezione Civile di Roma, insieme ai rappresentanti di tutte le forze dell'ordine. Continuando nel paragone con il sisma che aveva colpito l'Aquila, Curcio ha aggiunto: è chiaro che qui cambia lo scenario, come precisavo poco fa, nel senso che l'Aquila era una città capoluogo di regione importante dal punto di vista numerico, qui c'è una popolazione più diffusa, quindi immaginiamo che l'impatto sia meno gravoso in termini di vite umane, ma un evento di assoluto rilievo. Questo purtroppo lo capiremo solamente nelle prossime ore. Naturalmente molti giornalisti delle agenzie hanno anche provato a raccogliere delle testimonianze di tutte le località che sono state toccate dal sisma questa notte. Se proprio vi interessa sapere tutto, io sono marchigiano, ho sentito anche alcuni dei miei parenti nelle Marche, nell'Ancoletano. Mia mamma mi ha detto che questa notte c'è stato questo arrivo di questa prima ventata, praticamente, quindi prima proprio come se fosse un vento molto forte, poi la scossa che mi ha raccontato mia mamma poco fa non finiva mai. Abbiamo sentito un boato, poi una scossa lunghissima che ci ha buttato dal letto, sono caduti bicchieri, soprammobili, mi sono ritrovato le pareti di alcune stanze attraversate da crepe, ho preso mia moglie e mia figlia, siamo scappati in strada come tutti gli altri abitanti del palazzo. Questo lo racconta il corrispondente dell'ANSA da Ascoli Piceno, il collega Giuseppe Ercoli, è una delle centinaia di persone che ha trascorso la notte all'aperto per il sisma, appunto, che ha sconvolto e sta sconvolgendo i centri dell'Appennino di Marche, Umbria e Lazio. Vediamo se riusciamo a collegarci, sto provando a notare appunto Silvi se riesce a rimettersi in collegamento con Luca Vinciguerra, che è un ex collega del Sole 24 Ore che si trova in vacanza ad Amatrice. Questa mattina suo malgrado si è trovato, oltre a fare il corrispondente per noi, anche il soccorritore, perché insomma ha dovuto anche lui mettere le mani, scavare a mani nude addirittura tra le macerie. Ci ha richiamato più volte dicendoci: qua non sta arrivando nessuno, non ci sono soccorsi, quindi una testimonianza anche molto accurata da parte del collega che adesso riprenderemo. Betta Fiorito, hai altre notizie per noi? Sì, allora ti volevo dire che è stato firmato il decreto per i pieni poteri della Protezione Civile sui soccorsi a seguito appunto delle forti scosse di terremoto stanotte. È riunita a Roma presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile il comitato operativo per il coordinamento della risposta emergenziale. Nel frattempo la Protezione Civile fa sapere che è stato firmato il decreto del Presidente del Consiglio che consente al capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, di assicurare l'organizzazione dei servizi di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, nonché l'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari. E il Servizio Nazionale della Protezione Civile è completamente attivato, e tra cui diverse sezioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che vengono fatti convergere presso la Scuola Interforza della Difesa di Rieti. Al momento si registrano, come dicevi tu da studio, ancora criticità per i soccorsi a raggiungere alcune località. Un reparto del Genio Militare mobilitato da Roma per la rimozione delle macerie, difficoltà anche nei collegamenti radio e satellitari che rendono più difficoltose le operazioni, elicotteri sono in volo sia per i soccorsi sia per avere un rilevo dall'alto della situazione che consenta di vedere appunto gli effetti di questo sisma, e squadre cinofile per la ricerca dei dispersi stanno arrivando da tutta Italia. Incredibile. I maggiori effetti sono praticamente registrati ad Amatrice ed a Cumoli nel Reatino, ma anche nei territori, come dicevi tu, di Marche, in particolare di Arquanta del Tronto, e in Umbria risultano anche coinvolti. Quindi il capo della Protezione Civile dice: siamo nel pieno della fase del soccorso, in cui la priorità è salvare vite umane, verrà poi il momento dell'assistenza alla popolazione e successivamente del rilievo dei danni. Ecco Deborah, io andai per Radio 24 a San Giuliano e mi ricordo che la prima cosa è cercare ovviamente di salvare le vite umane e poi piano arriva l'esercito che monta poi le tendopoli per i sopravvissuti. In questo momento però, come dicevi tu, è molto difficile ancora, la macchina dei soccorsi si mette in moto sempre con troppa lentezza rispetto a quello che avviene in 10 secondi, Deborah, questo è il problema e abbiamo visto che si sta mettendo in moto, però ecco perché il collega non riesce a vedere nessuno che arriva, ovvio, perché tutto deve partire da Roma e sì, bisogna firmare un decreto, purtroppo questa è la burocrazia di fronte alla tragedia, burocrazia molto veloce, però calcolate che il sisma ha impiegato 10 minuti, i soccorsi arriveranno 10 secondi, i soccorsi arriveranno in ora. Grazie Elisabetta per i tuoi aggiornamenti, ti manteniamo collegate, intanto le televisioni nazionali, io ho acceso, sto monitorando Sky TG24, diciamo da lì e anche dalle agenzie vedo che il bilancio al momento delle vittime accertate sarebbe di 12 persone. Daniele Morini, buongiorno. Sì, buongiorno. Daniele, dove ti trovi in questo momento? Che località stai provando a raggiungere? Sto provando a raggiungere Pescara del Tronto, dove appunto, a parte la zona proprio dell'epicentro, ci sono anche lì purtroppo notizie non belle, nel senso che le vittime sembrano salite a 3, ci sono paesi come la stessa Pescara del Tronto che da quello che ci diceva poco fa il sindaco sono rasi letteralmente al suolo, non esistono più. Stiamo attraversando quasi per attraversare il confine tra Umbria e Marche, abbiamo impiegato un po' di tempo in più del previsto perché la galleria che collega la strada della Valnerina con Norcia è chiusa per una situazione da verificare, insomma piccoli crolli, stanno facendo verifiche statiche tra viadotto e galleria. Quindi effetto del sisma, ma naturalmente, ma per una situazione precedente, per effetto del sisma, e siamo dovuti salire sulle montagne attraverso Preci, e quindi adesso stiamo cercando di svalicare in zona Forca Canapine per raggiungere subito dopo appunto Pescara del Tronto. Vediamo naturalmente già qui sul confine umbro-marchigiano piccoli paesi come Campi che abbiamo attraversato pochi minuti fa, che sono così, cioè stanno chiudendo le strade di accesso, la gente sta sfollando, naturalmente qui non ci sono vittime, non ci sono vittime. Daniele, sì, ogni tanto ti perdiamo, inevitabilmente. Comprendiamo, eccoci qua. Siamo in mezzo alle montagne. Vi dicevo che paesini come Campi, dove appunto la gente sta evacuando, anche se ci sono fortunatamente vittime o crolli seri, ovviamente, però ci sono situazioni ormai di inagibilità. La stessa Norcia ha avuto dei crolli alle mura urbiche e ad altre. Ad altre, sì, stessa, no? Sì. Vi dicevo, crolli delle mura urbiche, ad altre situazioni che ormai portano verso l'inagibilità. Stiamo cercando appunto, come vi dicevo, di raggiungere Pescara del Tronto, uno dei luoghi più colpiti, una frazione del comune di Arquata del Tronto, dove appunto da lì arrivano notizie abbastanza pesanti sulla situazione e immaginiamo. Il traffico lungo le strade, in parte chiuse, appunto in parte transennate, in parte stanno facendo verifiche, vediamo, ecco, qui ci sono appunto dei crolli delle mura, di mura intorno ai paesi, situazioni magari che erano già compromesse precedentemente, cioè non erano staticamente solide e che però sono venute giù con le scosse, anche perché lo ricordiamo, vedendo la cronologia degli eventi, a parte l'episodio delle 3:36, un 6.0, c'è stato poi l'epicentro che si è spostato sempre di più verso Norcia, appunto intorno alle 4:30 due scosse fortissime di 5.1 e 5.4, quindi di poco inferiori a quella più grande di questa notte, hanno toccato proprio Norcia, quindi insomma l'epicentro si è spostato un po' verso verso l'Umbria. Insomma, dallo scenario che ci stai raccontando, è davvero difficile fare un bilancio di tutta l'area colpita, proprio perché è un'area quella che ha una composizione appunto di frazioni, di piccoli paesi disseminati su tutto il territorio, per cui probabilmente ancora non sappiamo bene anche quali aree sono in una condizione adesso più o meno difficile, no Daniele? Esatto, devo dire che per quanto riguarda questa fascia umbro-marchigiana, i terremoti degli anni, fine anni 70 fino a quello del 97, passando per quelli degli anni 80, avevano consentito dei recuperi delle, dal punto di vista ovviamente edilizio. Sì, qualche sindaco ha già detto, esatto, se non ci fossero stati questi interventi sarebbe stata veramente un'apocalisse questa notte, per cui... Addirittura possiamo persino consolarci paradossalmente di questo, anche se il bilancio comunque comincia ad essere un po' veramente drammatico, Daniele. Quindi ecco, quali aree sono state messe in condizioni di sicurezza, perlomeno nelle ragioni appunto manifestate dai rispettivi sindaci di questi paesi che hanno già parlato? Sì, guarda, io ti dicevo appunto, siamo passati per Norcia, dove non ci sono fortunatamente vittime, tanti piccoli crolli, anche una delle porte principali di Norcia, quella che si affaccia verso Castelluccio, è chiusa, una delle porte antiche della città, è chiusa, però come dicevo la staticità degli edifici abitativi o delle grandi strutture, come ad esempio l'abbazia benedettina, provate in questo caso dal terremoto del 79 proprio qui a Norcia, nella zona del Nursino, insomma consente di stare relativamente tranquilli per quanto riguarda almeno un bilancio di vittime e di feriti. Certo, insomma, Daniele, no? Allora noi adesso ti lasciamo per un po', ma torneremo a collegarci a breve con te, fra un po' ci ricolleghiamo anche per nuovi aggiornamenti con Valentina Furlanetto. Nel frattempo abbiamo raggiunto telefonicamente Filippo Bubbico, viceministro degli interni. Bubbico, buongiorno. Buongiorno per modo di dire, naturalmente. Allora, abbiamo appreso poco fa dalla nostra Elisabetta Fiorito che è stato firmato il provvedimento per conferire pieni poteri al Dipartimento della Protezione Civile appunto di gestione di questa emergenza per assicurare l'organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici. Cosa può dire? Sa che sono persino imbarazzata a fare delle domande alla politica in questi momenti? Ma guardi, in questi momenti bisogna soltanto agire in maniera fredda e determinata per portare il prima possibile i soccorsi necessari alle popolazioni colpite. Noi possiamo contare su una struttura ben organizzata, e la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, tutte le strutture pubbliche sono in grado di intervenire in tempi estremamente veloci. Ovviamente siamo profondamente colpiti da questo evento ed esprimiamo la vicinanza e la solidarietà a tutte le popolazioni colpite. E la questione più grave, Bubbico, è che non si riesce ad avere un quadro chiaro di tutte le località che sono state colpite dal sisma. A fare naturalmente una fotografia chiara è veramente difficile, proprio perché appunto dicevamo prima le caratteristiche geografiche di quell'area sono quelle che sono, urbanistiche anche, per cui ecco, come pensate di potervi muovere anche in questo senso? Sarà tutto un esercizio tra virgolette che dovrà fare la Protezione Civile? Come coordinare anche da Roma un lavoro di questo tipo? Ma il lavoro di coordinamento fonda essenzialmente sul protagonismo e sull'impegno dei sindaci, che sono in prima linea e che svolgono un ruolo fondamentale. Il coordinamento da Roma viene assicurato attraverso lo scambio delle informazioni, delle comunicazioni. Si consideri che in queste circostanze noi possiamo contare sul volontariato, che esprime una risorsa fondamentale per il nostro Paese, e sulle strutture di protezione civile regionale, che sono molto attive e molto pronte. Io ho fiducia che in tempi estremamente veloci diciamo non solo la mappa sia completa, ma le popolazioni siano raggiunte. E soprattutto si mettano anche in condizione di poter essere subito assistite e curate, perché qua vedo anche delle emergenze che riguardano ospedali inagibili, e questa è un'emergenza che si aggiunge anche all'emergenza. Certo. Pubblico, la ringrazio per ora, lascio tornare i suoi impegni romani, magari ci risentiremo nelle prossime ore per nuovi aggiornamenti. Io intanto ridò la linea alla regia e a Valentina Furlanetto. Sì, ancora una volta buongiorno dalla redazione. Per qualche aggiornamento su questo terremoto che ha colpito il centro Italia, la prima scossa c'è stata alle 3:36 di questa notte, un forte terremoto di magnitudo 6.0. poco meno forte di quello che aveva colpito l'Aquila nel 2009. E infatti si parla di una situazione paragonabile a quella dell'Aquila, così ha detto il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Interi reparti dell'ospedale di Amatrice, che insieme a Accumoli è fra i due comuni più colpiti, sono crollati, e in questo momento sono state portate delle persone all'ospedale dell'Aquila, proprio perché l'ospedale di Amatrice non è in questo momento praticabile. L'epicentro, l'abbiamo detto, in provincia di Rieti, tra Amatrice e Accumoli. 2 le vittime a Pescara del Tronto, 6 ad Accumoli, 5 ad Amatrice, ma si scava fra le macerie, sono decine e decine le persone disperse. Secondo il sindaco di Accumoli Stefano Petrucci, che anche noi abbiamo ascoltato poco fa, la situazione è davvero drammatica, si scava fra le macerie, non si riescono a quantificare le persone che sono in questo momento sotto le abitazioni, il paese è distrutto. Non c'è più, dice il sindaco di Amatrice. Il terremoto è avvenuto questa notte e sono seguite altre uno sciame sismico, altre scosse che sono state avvertite distintamente anche in altre regioni, in Abruzzo, in Umbria, nelle Marche, anche a Rimini e a Napoli. Le scosse sono state avvertite. Come dicevate, Palazzo Chigi ha mobilitato l'esercito per far fronte all'emergenza terremoto. Una componente del 6° Reggimento Genio di Roma con mezzi speciali è partita verso le zone colpite dal sisma. Chiaramente torneremo ad aggiornarvi dalla redazione per le notizie dell'ultima ora. Ti lascio le linee a Deborah, ci sentiamo più tardi. Grazie Valentina. Furlanetto, un bimbo sarebbe stato estratto vivo, sta bene, da sotto le macerie di Pescara del Tronto, sul lato marchigiano del sisma, quasi al confine appunto con il Lazio. È impossibile in questo momento. Naturalmente continuiamo a monitorare il resoconto delle agenzie qui da Milano, dagli studi di Radio 24. È impossibile in questo momento accedere alla città, è una delle più colpite dal sisma, con entrambe le vie d'accesso bloccate, e addirittura c'è chi racconta che dall'alto le immagini sono apocalittiche. C'è questa corsa drammatica per salvare Simone, 6 anni, dalle macerie di una casa completamente distrutta. Sono scene drammatiche che si stanno consumando nel centro storico di Amatrice. Massaggio cardiaco, pianti disperati. Sotto le macerie ci sarebbe anche il suo gemello Andrea e altre 4 persone. Leggiamo appunto l'Ansa in questo momento insieme a voi. Agenzia appunto sempre assolutamente accreditata nei suoi resoconti, appunto nelle sue dichiarazioni, per cui per questo motivo appunto mi permetto anche di leggere quando le notizie sono così drammatiche. Detto questo, allora adesso vorrei capire da Peter se possiamo dare la pubblicità, poi vi riproporremo la drammatica testimonianza che ci ha rilasciato questa mattina, lo ha fatto a tanti telegiornali nazionali il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, che è incapace persino di parlare, parla del suo paese appunto come raso assolutamente al suolo, non ha neanche la forza appunto per descrivere quello che sta succedendo, che naturalmente fa anche molta fatica a gestire. Ci sentiamo tra pochissimo. Gli speciali di Radio 24. Stiamo portando avanti il nostro resoconto di queste ore drammatiche che riguardano il centro Italia dopo la nuova forte drammatica scossa di terremoto di magnitudo 6.0 che nella notte ha colpito l'Italia centrale, con epicentro nei pressi di Accumoli in provincia di Rieti, Lazio, 4 km di profondità. Una prima scossa violentissima che si è registrata alle 3:36 del mattino, che è stata sentita da Rimini a Napoli. Se devo dirvi la verità, ci sono molti ascoltatori ascoltatori da tante parti d'Italia che in realtà hanno avvertito dei movimenti, e ad Accumoli e nella vicina Amatrice si registrano i danni più gravi. Risentirei per un attimo Elisabetta Fiorito da Roma, che ci ha raccontato dei provvedimenti di emergenza che stanno partendo dal governo. Abbiamo sentito Bubbico, viceministro all'interno. Elisabetta, ci sono altre novità? Poi andremo sì, con allora, altri colleghi. Ti volevo dire che appunto i vigili del fuoco sono impegnati per arrivare in comuni colpiti, i pompieri sono già ad Amatrice, e quanto ci dice Luca Cari, responsabile della comunicazione emergenza per i vigili del fuoco, siamo già ad Amatrice, in altri centri colpiti in misura minore, mentre troviamo molte difficoltà per raggiungere Accumoli. Sui luoghi colpiti dal sisma stanno confluendo quindi molte squadre dei vigili del fuoco, oltre che dal Lazio anche dalle regioni limitrofe. Sono operative squadre ordinarie e squadre di specialisti, tra cui, come ripetiamo, cani addestrati nella ricerca di persone tra le macerie. Sono anche al lavoro squadre specializzate nel movimento terra, attività indispensabile per superare alcuni blocchi stradali determinati esatto. dalla caduta di sassi e da alcuni smottamenti. Ecco, quindi vediamo che la macchina piano piano dei soccorsi si sta muovendo. E poi in Umbria dobbiamo segnalare poi che due tratti di strada delle Tre Valli nella zona di Norcia sono state chiuse tra Borgo Cerreto e Serravalle e tra Norcia e Arquata del Tronto per problemi legati al sisma. Questo l'ha riferito l'ANAS, e quindi ci sono due blocchi stradali, perché un altro problema che si crea con i terremoti è appunto questo, Deborah, che anche le strade diventano inagibili, per cui è molto difficile esatto. far passare i soccorsi. Ce lo raccontava poco fa Daniele Morini. Guarda Elisabetta, ti fermo per un attimo perché poco fa abbiamo raggiunto Maurizio Ferretti della Sala Operativa Unificata della Protezione Civile Regionale delle Marche. C'è una frazione rasa al suolo come Pescara del Tronto, grossi danni ad Arquata del Tronto, cedimenti e crolli diffusi anche nel Maceratese. Sentiamo cosa ci ha detto. Zona che è stata più colpita in assoluto, almeno per il territorio regionale, è quella di Arquata del Tronto, quindi al confine con il Lazio, e nelle frazioni in particolare di Pescara del Tronto, e abbiamo avuto insomma diverse vittime. Adesso ancora i numeri sono ballerini e quindi ci sono ancora interventi di soccorso in atto. Sì, sì, ho sentito anche che ci sono delle difficoltà nei soccorsi, difficoltà anche nel raggiungere questi luoghi. Allora, siccome sono zone montane, ci sono state anche diverse cadute di massi lungo la strada, ci sono diversi problemi per raggiungere alcune frazioni, e quindi si sta lavorando per riaprire la viabilità per raggiungere comunque queste zone. Adesso si stanno alzando anche gli elicotteri nostri, le squadre di soccorso nostre, i volontari, i cinofili sono già sul posto e stanno operando sotto per le macerie per trovare eventuali dispersi o persone ancora in difficoltà. Mi conferma che ci sono stati dei ritardi negli aiuti o no? No, assolutamente no. Ritardi assolutamente no, perché dalle 3.30 alle 4 eravamo già operativi, quindi assolutamente no. Eccoci di nuovo in diretta. Leggo intanto dalle agenzie che continuano ad arrivare soccorsi ad Amatrice. I militari dell'esercito, dell'Interforze dell'esercito d'Arieti, addirittura si sono diretti ad un convitto di suore dove al momento risulterebbero disperse tre monache, quattro anziani ospiti. Nel resto del centro storico si continuano a tirare fuori feriti dalle macerie, mentre amici e parenti aiutano a mani nude i soccorritori a scavare fra le macerie. Lì per noi c'è Luca Vinciguerra, che torniamo a salutare in collegamento da noi da questa mattina molto presto. Luca. Hanno appena, un secondo fa, hanno fatto fuori un bambino morto da era per spellina 5 minuti prima e invece purtroppo è rimasto certo. schiacciato. E niente, insomma, il paese, lo scenario qui è apocalittico, appunto si scava con le mani, insomma. Ognuno fa quello che può, insomma, ripeto, portiamo via le persone con le imposte, le porte, le barelle, ambulanze poche, adesso ovviamente arriverà. Mi piace, si comincia a vedere qualche, si cominciano a vedere dei caschi. delle divise di unità di soccorso che stanno arrivando da fuori. Possiamo renderci conto, Luca, che in momenti come questo, per chi li vive direttamente sulla propria pelle, un minuto possa sembrare un'ora e quindi il tempo si dilata ed è evidentemente anche per voi molto critico poter dire di avere dei soccorsi soddisfacenti quando invece la mobilitazione in Italia in questo momento possa assicurarti da tutte le testimonianze che stiamo raccogliendo. No, sicuramente è totale. Bisogna considerare che sono posti anche difficilmente raggiungibili, il problema è questo. Raggiungibili, sì, c'è Rieti che comunque dista 50 km, dall'altra parte c'è Ascoli, ma Ascoli ha gli affari suoi su tutta la parte di Arquata, certo, del Tronto e Accumuli e Pescara del Tronto, quindi l'altro posto è Aquila, ma anche lì parli pure di strada di montagna, cioè questo è assolutamente comprensibile. Sì. Luca, ci risentiamo più tardi, per adesso grazie ancora. Intanto nuovi aggiornamenti dalle agenzie dove si continua ad aggiornare il bilancio del sisma. Al momento ci sarebbero 13 morti accertati, 11 nel Lazio, di cui 6 ad Accumoli, 5 ad Amatrice, in provincia di Rieti, 2 nelle Marche, Peschiera del Tronto, provincia di Ascoli Piceno, ma continuano ad essere segnalate molte persone sotto le macerie, il bilancio delle vittime appare destinato a salire. Il terremoto di oggi dell'Italia centrale è paragonabile per intensità a quello dell'Aquila, lo ha detto questa mattina il capo del Dipartimento Protezione Civile Fabrizio Curcio, un unico blocco di macerie sulla strada, si scava, questo quello che si vede all'arrivo a Pescara del Tronto, vicino all'epicentro, pochi chilometri prima di Accumoli, provenendo appunto dalla strada statale 4. Siamo costretti a lasciare l'auto, a proseguire a piedi, dicono i reporter che provano appunto a raggiungere questa zona, perché peraltro si rimane naturalmente anche molto colpiti dallo scenario che si manifesta progressivamente, con gente che piange mentre cammina e si avvia verso il paese. Si continua a definire la zona appunto che si vede come una zona protagonista di uno scenario apocalittico, un sisma veramente devastante, quello che nella notte ha colpito l'Italia centrale di nuovo. Allora adesso fra un po' dovremmo ritornare ad avere, io sto continuando a darvi appunto le agenzie che vedo con questa nuova vittima che si è aggiunta poco fa, non so se siamo pronti magari a rilasciare di nuovo Peter Bescapè, l'intervista del sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, perché appunto come vi dicevo lo abbiamo sentito presto, è andato in onda anche sui telegiornali nazionali, ci ha colpito molto perché è un sindaco che è veramente colpito in maniera drammatica da questa emergenza, privo di voce, addirittura ci racconta come il suo paese sia stato letteralmente raso al suolo. Sentiamolo. La situazione è drammatica perché interi condomini, tutta la parte del centro storico è crollata. Adesso diciamo la prima cosa è quella di cercare di salvare più vite umane. Quante vittime ci sono, sindaco? Al momento non le so, guardi. Cioè, sono crollate intere case. Io penso che non sia una buona giornata oggi. Noi sappiamo almeno 2 persone morte ad Amatrice. Sicuramente sono di più. Sbagliava, non è così, perché interi condomini ne sono crollati. Poi questo era un momento clou dove il turismo insomma la fa da padrone. Lei dove si trovava quando c'è stato il sisma? No, io a casa. No. Questa è una cosa indescrivibile, dai. Adesso però... Un'ultima cosa, sindaco. So che anche l'ospedale ha avuto dei danni. Sì, sì. In questo momento è in funzione l'ospedale? Sì, nei limiti, anche se io non ci posso intervenire perché che metà paese non si passa, insomma. Ne è diviso in 2. I soccorsi stanno arrivando? Sì, quello sì, sì. Le decine di repliche del terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito Rieti sono sempre meno intense, ma per i sismologi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'andamento della situazione è comunque imprevedibile al momento, e cioè impossibile escludere scosse confrontabili a quella principale, quindi è chiaro che quello che interessa è capire se c'è il pericolo che nuove scosse possano colpire queste aree. Con tutte le macerie che ci sono, potete immaginare che naturalmente non potrebbe che aggravare drammaticamente la situazione. Intanto torniamo a collegarci con Valentina Furlanetto che ci rifà un punto della situazione con le ultime notizie. Sì, le ultime notizie sono quelle che riguardano il bambino di cui anche voi avevate dato notizia. È stato estratto vivo un bambino a Pescara del Tronto, un bambino che è stato estratto dalle macerie. In questo momento è impossibile accedere alla città, che è una delle più colpite dal sisma, insieme ai due comuni di cui vi abbiamo parlato, Amatrice e Accattoli. Per quanto riguarda invece l'intensità del sisma, siamo riusciti poco fa a raggiungere il dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Alessandro Amado, e vi farei sentire la sua testimonianza. È un terremoto per certi aspetti simile a terremoti precedenti che abbiamo avuto nella zona dell'Appennino centrale, come quello dell'Aquila del 2009 e quello dell'Umbria Marche del 97, e nel senso che hanno la stessa tipologia di movimento delle faglie, quindi sono terremoti legati a uno stesso processo, che è l'estensione dell'Appennino, che a tratti ogni qualche anno, diciamo, si frattura in una sua porzione limitata, diciamo fortunatamente limitata, perché questo limita, diciamo, la magnitudo di questi terremoti. Quindi sono terremoti simili, di magnitudo confrontabile. Quello dell'Aquila era un po' più forte di quello di questa notte. Al momento stiamo rilevando, per una zona lunga estesa circa 25 chilometri, diciamo lungo la catena appenninica da nord a sud, stiamo rilevando gli aftershock, le repliche del terremoto di questa notte, che sono, diciamo, aspettate dopo un terremoto di magnitudo 6. Ne abbiamo rilevate diverse decine. Al momento la più forte ha avuto magnitudo 5.4, però il processo è ancora in corso e quindi ci dobbiamo aspettare ancora sicuramente altri terremoti nelle prossime ore, nei prossimi giorni. È stato detto che questo è un terremoto con un epicentro a poca profondità, 4 chilometri se non sbaglio. Sì, sì, l'epicentro l'ipocentro è superficiale. Bisogna anche considerare che questi terremoti di questa magnitudo attivano una zona che va da una certa profondità, poniamo 8-10 chilometri, fino quasi alla superficie o addirittura a rompere fino alla superficie terrestre. Quindi l'ipocentro è il punto da cui si origina la rottura sulla faglia, ma poi è tutta la faglia che si attiva. Quindi, diciamo, la zona è sicuramente da quasi la superficie, da poco sotto la superficie, fino a probabilmente 7-8 chilometri di profondità, con un punto di partenza, diciamo, di nucleazione del fenomeno a 4-5 chilometri. E questo comporta che tipo di caratteristiche un terremoto così superficiale? E comporta il fatto che l'energia che si sprigiona sulla faglia viene poco attenuata arrivando in superficie, perché fa poca strada, diciamo. Quindi è più pericoloso. È più sì, ha uno più pericoloso, ha uno scuotimento maggiore rispetto a, non so, un terremoto che avviene a 20 o 30 chilometri, come in alcune zone d'Italia ogni tanto avviene. Però questi dell'Appennino, come dicevo, l'Aquila, questo, Col Fiorito, sono tutti terremoti che hanno interessato la parte più pellicolare della crosta, quindi i primi 8-10 chilometri. Colpisce la coincidenza di orario, lo stesso orario quasi identico al terremoto che colpì il 6 aprile 2009 l'Aquila. Sì, sono stati 4 minuti di differenza. Anche a me ha sorpreso, perché quando mi sono svegliato, io sono a Roma, l'ho sentito molto bene, quindi mi sono mosso a quell'ora, ho guardato anch'io l'ora e ho fatto questa considerazione, però insomma, diciamo, non gli darei particolare rilevanza. E ora ci dobbiamo aspettare nuove scosse? Sì, gli aftershock sicuramente, come dicevo prima, dureranno sicuramente alcuni giorni, alcune settimane. Adesso è presto per dire se si va verso una diminuzione o meno, perché abbiamo visto che in passato nel nostro catalogo ci sono molti esempi di scosse multiple, di riprese, di passaggi da una faglia all'altra, quindi non si può fare adesso una previsione su cosa succederà nei prossimi giorni. Come avete sentito, resta grande la paura in provincia di Rieti, ad Accumoli e Amatrice, i due centri più colpiti. Si scava fra le macerie, ancora presto per fare un bilancio delle vittime, e intanto anche dei rifugiati che fanno parte di un progetto di assistenza sono rimasti colpiti da questo sisma. Risultano dispersi due ragazze afghane sotto le macerie di una casa totalmente distrutta. distrutta, dispersi anche una famiglia, accumuli delle persone ad Amatrice, si scava fra le macerie. Il sindaco Sergio Perozzi poco fa ci diceva che il paese praticamente non c'è più. Io restituisco la linea a Deborah Rosciani, sì. Ci risentiamo per 9. Il GR delle 9. Esatto, quindi hai pochissimi minuti di tempo per preparare un nuovo aggiornamento. Intanto continuo a leggere insieme a voi ascoltatori le agenzie che continuano ad essere diramate, con le aziende sanitarie di tutta quell'area che dichiarano la loro disponibilità sia a portare soccorsi con uomini e mezzi e naturalmente anche a ricevere eventualmente persone che hanno bisogno di soccorso, ma potete immaginare come sia difficile fare tutti questi spostamenti per tutte le ragioni che abbiamo spiegato fino a questo momento. Intanto noi dalla radio possiamo raccontarvi quello che succede mentre i network nazionali appunto continuano a raccontare e anche a presentarci delle immagini di quanto accada, almeno 100 dispersi, leggevo poco fa addirittura ad Arquata del Tronto, in quella zona lì, 2 morti ad accumuli. Continuo a leggere con voi anche i flash appunto che lampeggiano da Sky TG24 che ho accesa di fronte a me in questo momento, in 4 sotto le macerie. Poi è passata anche un'immagine che mi ha colpito, adesso non mi sono resa conto velocemente se si trattasse di accumuli o di Amatrice, di una torre del paese appunto con un orologio fermo alle 3:36 di questa notte, l'ora proprio del sisma. Intanto la Protezione Civile continua a dire l'evento è stato severo. Elisabetta Fiorito, ci sono altre notizie da Roma? Allora, Deborah, ovviamente come abbiamo detto le notizie sono sempre molto molto frammentarie. Il Corpo Forestale anche è impegnato nei territori colpiti dal sisma, nell'area di Amatrice, Norcia, Accumuli e Arquata del Tronto. Queste le prime operazioni alle popolazioni colpite. 24 pattuglie della Forestale provenienti dai comandi regionali del Lazio, dell'Abruzzo, dell'Umbria sono presenti attualmente nelle zone del terremoto per prestare i soccorsi necessari alla popolazione. Oltre queste anche un gruppo partito dalla scuola di stato di Città Ducale, composto da 15 unità, con al seguito tende, cucina da campo e il necessario per i primi soccorsi. 2 elicotteri della Forestale stanno eseguendo i primi sorvoli di ricognizione, altri 3 elicotteri sono già in prontezza operativa e sono in arrivo, quello che abbiamo detto, anche le unità cinofile. Intanto c'è il primo bilancio dei morti e sono 13, ma come diciamo purtroppo Deborah, sappiamo che in questi casi le vittime sono destinate a salire di ora in ora e dobbiamo dire che la macchina dei soccorsi si sta muovendo, anche se come ricordiamo il problema è sempre che la percezione si muova sempre troppo lentamente. Sì. La Protezione Civile qui vicino al Palazzaccio a Roma è operativa già da stanotte e alcuni feriti sono stati portati da Amatrice in eliambulanza a Roma, quindi vediamo intanto che appunto quello che sta avvenendo. È stata usata l'eliambulanza, l'ha detto il responsabile della Protezione Civile del Lazio Carlo Rosa, impegnato nell'operazione di soccorso ad Amatrice e Accumuli, le zone del Reatino più colpite ricordiamo dal sisma. Oltre i mezzi della Protezione Civile, il 118 ha già avviato nel corso della notte 3 elicotteri dedicati e 6 mezzi di soccorso su gomma. Al momento i feriti sono 6 e 2 sono in codice rosso, quindi lo sappiamo, il codice rosso è quello lì poi più duro, più, insomma, in cui si rischia la vita. E quindi Deborah, sì, allora ti lasciamo Elisabetta, guarda, perché abbiamo bisogno di te nelle prossime 2 ore almeno, perché presumibilmente andremo in onda fino alle 11 con questa linea diretta. Nel frattempo avevamo provato a risentire anche Daniele Morini che sta raggiungendo appunto le aree più colpite dal sisma, nostro corrispondente dal centro Italia. Adesso è caduta la telefonata ma la ripeschiamo al volo, e però insomma noi continueremo con la nostra diretta. Peraltro vorrei anche, se vorrete, lo faremo anche nella seconda parte del programma, magari aprire le linee ai nostri ascoltatori con le loro testimonianze all'800 24 00 24, ma tutto questo naturalmente lo rimandiamo alla seconda parte del programma. Daniele Morini, dove sei arrivato? Sì, guarda, siamo Stiamo cercando di raggiungere sempre la zona di Arquata e Pescara del Tronto, ma purtroppo le strade via via che passano le ore diventano sempre più difficilmente percorribili. Ad esempio la strada che attraversa verso Arquata da Castelluccio di Norcia è chiusa, quindi è un'informazione anche di servizio per chi si muove in quelle zone. È chiusa, anche noi siamo stati fatti deviare per la provinciale 17 che collega appunto l'Umbria con le Marche, passando per il Reatino, perché siamo in prossimità di Città Reale, appunto, che è in provincia di Rieti. Quindi nel giro di poche veramente centinaia di metri, se non pochissimi chilometri, tre regioni diciamo si incontrano proprio nella zona dell'epicentro di questo terremoto che ha colpito di fatto sui Sibillini, insomma, sulle esatto. montagne dei Sibillini. Adesso speriamo che la Salaria, che purtroppo sappiamo dalle cronache anche vostre da studio che ci sono problemi di viabilità anche sulla Salaria, in particolare per gallerie e viadotti, speriamo che la Salaria ci consenta di arrivare ad Arquata e a Pescara, dove ci sono alcune delle situazioni purtroppo più drammatiche di questo terremoto. Daniele, conserva allora un po' di batteria per i nostri prossimi collegamenti, intanto vediamo quanto riesci ancora ad avanzare. Ci diceva Daniele Morene, che sta provando a raggiungere Arquata del Tronto e Pescara del Tronto con tutte le inevitabili difficoltà di queste ore drammatiche. Proseguiamo la nostra diretta, io adesso mi fermo per dare la linea al giornale radio, ma con lo speciale di Radio 24 proseguiamo subito dopo. Gli speciali di Radio 24. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buongiorno da Deborah Rosciani. Stiamo continuando a raccontarvi e a leggere insieme a voi le notizie che arrivano dalle zone colpite dal drammatico sisma che questa notte ha colpito l'Italia centrale. Morti e feriti, un bilancio difficilissimo naturalmente da compilare in queste ore, esercizio anche inutile, almeno proviamo a darvi le cifre precise dei bilanci che stanno arrivando. Un epicentro, una forte scossa di terremoto, una magnitudo 6.0 che ha colpito in primo luogo Accumoli in provincia di Rieti nel Lazio, 4 chilometri di profondità. Abbiamo raccontato anche quelle che possiamo così un po' dire sono le caratteristiche di un sisma di questo tipo, naturalmente grandi confronti anche con quello che è successo a L'Aquila, territori ovviamente diversi. Per quello che riguarda il sisma di questa notte, naturalmente abbiamo anche raccontato la grande difficoltà dei soccorsi a raggiungere tutte le zone colpite, proprio perché si tratta poi prevalentemente di paesi che sono composti da tante frazioni e quindi tutte aree di difficile che è molto difficile da raggiungere. Stiamo appunto naturalmente ancora collegandoci, provandoci a collegare con i colleghi che stanno tentando a loro volta di raggiungere le aree. Poco fa abbiamo sentito Daniele Morini che prova a raggiungere Arquata e Pescara del Tronto. A Pescara del Tronto in particolar modo continuo a leggere su Sky TG24 di questa cifra che danno. Si parla addirittura, pensate, di un centinaio di dispersi solo in questa frazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere successo in tutto il resto di quest'area. Elisabetta Fiorito, ci sei ancora con noi? No, perché sì, qua allora, peraltro senza voler alimentare le polemiche, ma già il tema della questione dei soccorsi che da Roma non sono stati subito coordinati in maniera efficiente è già partita, te lo dico già. Possiamo immaginare. Partita. Ricordiamo però che il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha sentito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è in contatto diretto con la Protezione Civile, le strutture di coordinamento e soccorso con i Presidenti delle regioni interessate dal sisma, che ricordiamo sono 3, Lazio, Umbria e Marche, nelle zone colpite dal terremoto, riferiscono poi fonti di Palazzo Chigi, si recheranno a breve il Ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio e il Capo della Protezione Civile Curcio, anche il Sindaco di Roma Virginia Raggi è fin da questa notte in stretto contratto con la Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Vigili Urbani, che stanno monitorando e valutando eventuali emergenze sul territorio. Questo ovviamente da Roma, e ricordiamo che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sta tornando a Roma da Palermo, quindi lo Stato si muove. Ora bisogna capire che cosa succederà ai soccorsi, perché attualmente abbiamo visto che ci sono ancora delle difficoltà, soprattutto il sisma ha colpito anche le strade e quindi è difficile, esatto, raggiungere le zone colpite, ma abbiamo visto adesso che c'è già un nucleo, che è l'unità poi di crisi di Palazzo Chigi, che è riunita da questa notte e che il Presidente della Repubblica sta tornando a Roma, questo lo dice il Quirinale. Certo, Elisabetta, quindi ti fermo un attimo perché ad Amatrice abbiamo raggiunto un altro collega giornalista, collega del Messaggero, Fabrizio Colarieti, che saluto. Fabrizio, buongiorno, dove ti trovi esattamente in questo momento? Puoi raccontarci, farci la tua testimonianza di quello che vedi? Ti correggo, sono un collega dell'ANSA. Scusami, sono ad Amatrice, la situazione è veramente drammatica. Io sono arrivato alle prime ore all'alba e veramente non ho rivisto le scene che avevo già visto all'Aquila. Il centro storico è interamente devastato, ci sono decine di edifici crollati e temo che le vittime siano molte, molte più di quante ne apprendiamo in questi minuti, insomma. Allora, soccorsi, che cosa vedi attorno a te? Noi ci siamo ripetutamente collegati questa mattina con un altro collega che casualmente era lì in vacanza, Luca Vinciguerra, che naturalmente, proprio anche comprensibilmente spaventato, ci parlava di ambulanze che non arrivano e quindi un soccorso che era completamente nelle mani evidentemente dei volontari. Le zone sono quelle che sono. Fabrizio, sì, ecco, tu da qui vedi una situazione quantomeno un po' più movimentata. La matrice è l'estrema, ai confini con Ascoli Piceno, al quale il Tronto, quindi è molto lontano dal capoluogo. C'è un ospedale che è tra l'altro inagibile, c'è un piazzale dove adesso ci sono decine di feriti, l'ospedale è completamente inagibile in tutti i piani, addirittura ci sono dei crolli all'interno dell'ospedale. Non era più un ospedale, era stato declassato a posto di soccorso. Elicotteri che fanno avanti e indietro, ambulanze, e adesso stanno lavorando molto sui crolli per vedere chi c'è sotto ancora, estrarre le persone che sono ancora sotto le macerie. Intanto per quello che riguarda Pescara del Tronto c'è un ultimo bilancio di quelle che sarebbero le vittime, sarebbero 8. Pescara del Tronto è la frazione di Arquata, quasi rasa al suolo, ecco, esattamente, con dei bambini. Purtroppo notizia non ancora confermata ufficialmente, ma proverrebbe appunto da fonti informate la tua agenzia, Fabrizio, appunto, che la sta diffondendo. Hai altre cose da aggiungere, da raccontarci, da testimoniarci? Al momento vero che c'è moltissime forze, sono arrivate in questo momento una colonna logistica di Vigili del Fuoco, cioè molto personale al lavoro. E credo che vorrà l'intera pomeriggio, se non anche domani, per fare una stima definitiva, perché io mi sono illustrato un pochino nel centro storico, ma vede devastazione per diverse centinaia di metri. E poi la terra continua, l'abbiamo sentita più volte, quindi ti sentiamo a fatica, Fabrizio, perché ovviamente anche la qualità del collegamento telefonico comincia ad andare in difficoltà. Guarda, ti lasciamo, come dicevo prima, anche al nostro Daniele Morina, risparmiare sulla batteria perché avrei bisogno del tuo telefono, andarla a caricare da qualche parte. Immaginiamo quanto possa essere difficile oggi, ma magari chiederemo la tua disponibilità con ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime ore. Intanto c'è questa raccomandazione che fa circolare la Croce Rossa, anche questa completamente comprensibile, di lasciare libere le strade di accesso alle zone colpite dal sisma, particolarmente la via Salaria, ne parlavamo prima anche con Daniele Morini, ma anche le linee telefoniche e cellulari, proprio per non intralciare i soccorsi. È sul profilo Twitter che la Croce Rossa ha fatto circolare queste raccomandazioni. Tutta la Croce Rossa è in stato di mobilitazione, lo scrive il presidente Francesco Rocca, squadre cinofile, squadre di soccorso con 20 ambulanze in arrivo, cucine da campo per assistenza alla popolazione in partenza per Amatrice e Accumoli, automobilisti invitati ad evitare, se non necessario, di percorrere la via Salaria per permettere ai mezzi di soccorso di raggiungere le zone colpite. Nel frattempo, peraltro, noi vorremmo, se possibile, aprire anche la linea ai nostri ascoltatori all'800 24 00 24, se volete condividere con noi le vostre testimonianze, se siete in quelle zone, se le conoscete, e quindi insomma siamo disponibili oggi a sentire anche la vostra voce. La Croce Rossa peraltro ha pubblicato anche il consueto vademecum su che cosa fare in caso di terremoto. Tra le indicazioni per chi è al chiuso, si raccomanda di cercare riparo, non precipitarsi sulle scale, vabbè, queste possiamo anche lasciare lasciarla, andiamo avanti ancora con le altre notizie di cronaca che invece arrivano da queste zone. Sta proseguendo peraltro a quanto pare anche lo sciame sismico dopo le forti scosse di questa notte tra la provincia di Rieti e Ascoli e le zone, lo ribadisco ancora, più colpite Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Secondo le rilevazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dalla forte scossa di magnitudo 6 delle 3.36 di questa notte sono stati oltre 50 i movimenti tellurici di magnitudo superiore a 3 che poi hanno interessato tutto l'Appennino centrale e le zone sismiche di Rieti, Ascoli Piceno e Perugia. Noi peraltro proveremo tra poco, anche se ce la facciamo, a collegarci con un sismologo che ci dia qualche ragguaglio in più tecnico rispetto a questo sisma. Rifaccio un po' un punto della situazione sulle scosse più forti che sono state registrate. Per la zona di Rieti alle 3.56 magnitudo 4.4, alle 5.08 con magnitudo 4.0, alle 5.40 con magnitudo 4.2, nella zona di Perugia invece alle 4.33 con magnitudo 5.3, ma insomma qua sono cifre che magari in questo momento ci dicono anche poco, ci raccontano solo l'intensità di questo sisma che torna drammaticamente a colpire il centro Italia. E insomma, dopo l'Aquila avremmo fatto anche a meno di raccontare in piena estate questa nuova emergenza. Ad Accumoli intanto si continua a scavare a mani nude, continuano a testimoniarlo alcuni colleghi dell'ANSA che sono riusciti a raggiungere l'epicentro del sisma per cercare dispersi sotto le macerie. Ci sono anche scavatori privati che provano naturalmente a rimuovere i massi, vistosi crolli nella centrale piazza San Francesco presso la stazione dei carabinieri, un bar, abitazioni private. In alcuni punti, leggo dall'ANSA, si sarebbero aperte anche delle voragini che avrebbero inghiottito anche delle auto. E poi c'è l'allestimento di campi appunto dove gli sfollati passeranno la notte. Il sindaco di Accumoli intanto, Stefano Petrucci, sta facendo il primo punto della situazione nel suo comune e dice: avremo bisogno di generi di prima necessità da tutta Italia perché siamo completamente scollegati, dobbiamo allestire più di una tendopoli perché abbiamo 17 frazioni e in questi giorni ci sono molti villeggianti. Dobbiamo vedere come poterli sistemare e sui danni il sindaco sta ancora aspettando di avere un quadro preciso della situazione che immaginiamo non potrà avere che prima di qualche ora. Per fortuna abbiamo una struttura comunale che potremo usare per l'accoglienza. Nel frattempo sono le 9.15, forse tra poco ritorna anche la redazione per nuovi aggiornamenti, adesso vediamo se li avremo tra poco. Elisabetta Fiorito, intanto 10 morti a Pescara del Tronto, per il momento questo bilancio per questa zona è ufficiale e vedo anche che altri politici stanno mobilitandosi da altre parti d'Italia per poter magari garantire supporto, aiuto, invio di uomini della protezione civile da più regioni d'Italia. Sì, intanto ti confermo che il ministro Graziano Del Rio andrà insieme con il capo del Dipartimento della Protezione Civile Curcio a visitare le zone colpite dal terremoto e che il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha sentito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sta rientrando a Roma. Ci sono ovviamente molte reazioni politiche, per esempio cordoglio per le vittime, dice Deborah Serracchiani, ma anche sì, dal Movimento 5 Stelle abbiamo appunto dei segnali di solidarietà alle famiglie delle vittime e anche da Forza Italia attraverso Renato Brunetta proprio si cerca di sostenere i deputati. Forza Italia sono vicini alle famiglie delle vittime. Ecco, adesso bisogna capire che cosa succederà riguardo ai soccorsi e ci saranno ovviamente delle polemiche, Deborah, se sono partiti in ritardo, se sono invece partiti in modo giusto, però ricordiamo che le strade sono bloccate e che la protezione civile stessa, lo ricordiamo per chi è in viaggio, dice di non mettersi in viaggio sulla Salaria, di lasciare la Salaria libera da Roma fino ad Amatrice, fino alla zona del sisma. Questo è importantissimo perché è importantissimo che la gente anche capisca che con poco può fare la differenza, cioè restare nelle case, non muoversi, non usare quelle strade che possono invece intralciare la macchina dei soccorsi e salvare vite umane, perché sotto le macerie ci sono ancora molte persone e che possono essere salvate. Ecco, questo è importante dirlo, Deborah. Sui bilanci intanto delle vittime, io naturalmente sono sempre molto prudente rispetto alle cifre che vedo e mi limito a dare quelle ufficiali, che quantomeno a meno vengono definite tali da anche altri altri circuiti giornalistici. Sky TG24 lampeggia sul suo monitor le vittime confermate fino a questo momento, sarebbero 21. Allora, intanto abbiamo aperto le linee ai nostri ascoltatori, ci interessa essere live anche con voi per le vostre testimonianze. Naturalmente lascerei fuori il campo a tutte le polemiche, perché non sta a noi esprimerle in queste ore, ma mi interessa intanto sentire Sabatino, che sta provando ad andare ad Amatrice. Salutiamo Sabatino, buongiorno. Dove si trova buongiorno in questo momento? Sì. Scusatemi, sono un po' agitato. Sto andando ad Amatrice perché ho mia madre ricoverata dalle suore, dove è crollato tutto, è uscita solamente una suora dopo la prima scossa e non si sanno notizie. Ho visto qualche video su YouTube e c'è solamente un scavatore, ma non può fare niente, tutti non si sanno notizie. Ho visto, adesso io sono passato dal bivio di Rieti, ho visto una colonna dei vigili del fuoco di Avellino che invece di girare verso Rieti come le ambulanze ha girato verso la parte del Teramano, del Terni. Sì, viene quindi deviato sicuramente tutto, hanno sbagliato, sì. Non conoscendo la zona potrebbero aver sbagliato strada, certo. Se potete avvisare voi quelli di Avellino. Grazie. Perché era una colonna di Avellino dei vigili del fuoco che ha sbagliato strada, forse. Speriamo che li avvisino i loro coordinatori appunto centrali. Sabatino, ma lei per raggiungere Amatrice da dove è partito? Io sono partito da Roma, adesso ho passato Rieti da 10 minuti e adesso sto andando su, che mi hanno detto che fino a un certo punto si arriva, ma il dopodiché ponte verrà bloccato, esatto. Un paio di chilometri a piedi, quindi sperando che non crollino anche le strade di accesso. Stia attento, per carità del cielo, Sabatino, non aggiungiamo emergenze a un'emergenza già drammatica, però siamo comprensibilmente appunto accorati con lei. Sta cercando di raggiungere la sua mamma e abbiamo già raccontato di questo convento che sarebbe appunto finito nelle macerie, qualche suora non si trova, naturalmente forse anche qualche anziano che veniva ospitato da questa struttura. Speriamo naturalmente non ci sia la mamma di Sabatino, che sia sana e salva, la possa riabbracciare al più presto. Nel frattempo ci ha chiamato anche un altro ascoltatore da Bergamo, che è Roberto, è il capo della protezione civile di questa città. Roberto, perché naturalmente subito balzato sulla sedia quando partono le polemiche sulla efficienza o inefficienza dei soccorsi, ovviamente i diretti interessati si indispettiscono, giustamente. Roberto, insomma, lei ha mai vissuto un'esperienza di questo tipo? Roberto, ci sente? Eccoci, grazie. Buongiorno. Innanzitutto una piccola correzione: non sono il capo della protezione civile, perché quello ce n'è uno ed è il capo dipartimento, l'ingegner Curcio. Sono responsabile di un comune della provincia, non sono proprio di Bergamo città. Detto questo, l'unica cosa che sento anche dall'ascoltatore precedente, che giustamente aveva un'enfasi dovuta al momento, alla situazione, ovviamente comprensibile. La macchina dei soccorsi, quando succede questo, parte nell'immediato. Noi non ce ne accorgiamo e ovviamente sembrano sempre ore, quei pochi minuti o quelle decine di minuti, ed è comprensibile soprattutto se poi c'è una problematica di viabilità. Il Corpo Nazionale Vigile del Fuoco si è immediatamente mosso e lo fa sempre in un modo eccellente ed impeccabile, visto che ci tocca lavorare spesso con loro, in quanto sono la componente fondamentale del Servizio Italiano di Protezione Civile e fanno il lavoro in modo egregio. E ovviamente mettiamoci nei panni anche di quel funzionario, di quel capoturno che riceve questa informazione, capire. Che da una parte vorrebbe prendere e partire, dall'altra parte immaginiamo, Roberto, deve rispettare dei protocolli e delle procedure. Esatto, quanto è grande l'evento, chi lo valuta? Vanno le prime squadre in partenza, poi ci sono i richiamati, cioè i vigili del fuoco che sono in turno di riposo, in vigilanza si chiama, E quindi prima di far partire questo sicuramente qualche minuto va, ma le prime squadre non sono mille a partire, sono le partenze classiche di un distaccamento, certo, di un comando provinciale. Roberto, quindi, a lei è mai capitato di dover intervenire in una situazione come quella di questa notte? Con un altro ente pubblico che al tempo era pubblico, mi si occupava di soccorsi a livello nazionale, un movimento internazionale, siamo partiti come militari ad andare all'Aquila nell'aprile del 2009 e ovviamente chi è arrivato prima di me ha fatto l'attività di scouting, si chiama, cioè ricognizione del territorio per capire qual è la portata dell'evento e quali sono i punti critici dove intervenire, perché ovviamente non si può pensare di partire con un'ambulanza o con del personale random sul territorio cercando qualcosa che non va. Bisogna fare una ricognizione, fare una sorta di triage dell'evento. Questo richiama tempo, richiede tempo. E è comprensibile che tutti si lamentano perché questo tempo significa per qualcuno... si dilata all'infinito, Roberto, per chi naturalmente deve ricevere il soccorso, lo immaginiamo, chi lo guarda dall'esterno. Però io la ringrazio per averci spiegato anche poi dal dietro le quinte come funziona tutto questo, per cui possiamo anche, come dire, esprimere un po' meno polemiche rispetto anche a quelle che inevitabilmente partiranno anche in questa circostanza. Per adesso grazie molte. Allora, io vorrei andare avanti perché intanto... continuo a leggere delle notizie, fra un po' vi presento anche un altro ospite che abbiamo raggiunto e che ci racconterà qualche cosa in più, spiegherà qualcosa in più rispetto alle caratteristiche del sisma di questa notte. Leggo che un altro bambino è stato estratto vivo dalle macerie di Pescara del Tronto, che è la frazione appunto di Arquata del Tronto, per chi si mettesse in collegamento in questi minuti. Io ricordo ancora per quanto possibile i nomi e le caratteristiche di questa zona, i nomi in particolar modo: Pescara del Tronto è la frazione di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno, completamente distrutta dal sisma 6.0 di questa notte. È il fratellino di 4 anni dell'altro bambino, anche egli estratto vivo poco fa, di 7 anni. Erano ospiti della propria nonna. La nonna, è anche commovente leggere queste notizie, li aveva infilati insieme a lei sotto il letto, racconta Lanza. La donna risponde da sotto le macerie. Per fortuna almeno questo nucleo familiare è salvo. Tutta la frazione continua invece ad essere inaccessibile dalla statale. I volontari stanno continuando a provare a portare acqua e coperte e questa è la situazione. Quantomeno abbiamo questa notizia buona: due fratellini di 4 e 7 anni estratti vivi dalle macerie di una casa distrutta a Pescara del Tronto. Intanto continuano a partire unità di soccorso da tutta Italia, leggo dalle agenzie che sono partiti, per esempio da Brescia potrebbe partire qualche unità nel primo pomeriggio. Continuano ad essere diffuse anche notizie che riepilogano le caratteristiche appunto della scossa e magnitudo di questa notte. Allora, proprio a questo proposito direi di andare a sentire il nostro esperto tecnico Gilberto Saccorotti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Buongiorno intanto. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, lo abbiamo ribadito migliaia di volte già da questa mattina, l'epicentro di questo sisma nei pressi di Accumoli in provincia di Rieti, con soli 4 chilometri di profondità. Intanto questa prima banale, se mi consente, caratteristica, che cosa ci racconta di questo sisma, Saccorotti? Allora, ci racconta, no, è banale, non è assolutamente banale, ci racconta un sacco di cose. Ci racconta che il terremoto è avvenuto in una zona che ha già riconosciuta elevatissima pericolosità sismica. Siamo in una delle zone più pericolose d'Italia, più pericolose vuol dire con maggiore probabilità di accadimento di terremoti in magnitudo importante. La bassa profondità, che in effetti 4 chilometri è una profondità ridotta rispetto a quella che è la tipica profondità del terremoto appenninico, che è attorno a 10 chilometri. Lo rende più dirompente, più violento? Lo rende più chiaramente più appunto più impattante, ecco il termine giusto, sì. Facciamo fatica, non è tecnico, però insomma giusto, però diciamo che il suo impatto è sicuramente maggiore in quanto è più vicino alla superficie e quindi gli effetti sono sicuramente maggiori rispetto a un terremoto di uguale magnitudo ma più profondo. Senta, naturalmente le domande che si fanno in molti in questo momento, alle quali è impossibile dare risposte, cosa ci si può aspettare in termini di ulteriori scosse? Come si fa a fare un accertamento di questo tipo, Saccorotti, per capire se altre naturalmente scosse arriveranno, che assesteranno il territorio, se saranno più o meno intense, se avranno le stesse caratteristiche, se saranno alla stessa profondità o sarà una profondità diversa? Come fa anche un professionista del vostro tipo a monitorare una situazione di questo tipo? Ci racconti anche lei poi qual è il lavoro che fate per cercare di trasmettere anche le informazioni giuste, soprattutto a chi deve fare poi tutti i soccorsi in queste ore, dalle amministrazioni alla protezione civile e quant'altro? Allora, noi partiamo sempre dalla grande verità che il terremoto non si può prevedere. E con questo assunto di base, sicuramente dopo ogni scossa di terremoto, qualunque sia la sua intensità, ne seguono altre che sono le cosiddette scosse di assestamento. Ora, ci sono delle leggi empiriche, quindi derivate dalle osservazioni sperimentali, che dicono che per una scossa di una data magnitudo, insomma, in media, statisticamente ne seguono molte di più di una magnitudo di un grado inferiore e via dicendo. Quindi questo qui è un po' il principio generale che ci dice che dopo un magnitudo 6 ci dobbiamo aspettare diversi terremoti magnitudo 5. Però stiamo parlando di leggi basate su appunto osservazioni empiriche, quindi che possono tranquillamente essere violate, quindi non stiamo parlando di comportamenti deterministici, ha capito? Quello che ci guida appunto è sapere che dopo un terremoto grande statisticamente ne osserviamo tanti di magnitudo un po' inferiore. È chiaro, se il terremoto è 6, quelli che ci aspettiamo sono terremoti anche di magnitudo 5, 4, eccetera, e quindi magnitudo comunque importanti che vengono risentite, che possono provocare danni. Quindi? No, mi diceva anche il tipo di indicazioni che possiamo dare sono sempre quelle dei comportamenti, le norme di comportamento sono fondamentali in questo caso, cioè non per chi ancora non avesse subito danni o comunque dovesse uscire all'esterno durante il terremoto, di stare assolutamente lontani dagli edifici nel centro delle strade, perché possono cadere oggetti, ci possono verificare crolli. Questo vale anche per i tecnici e le squadre di soccorso. Cioè siamo ancora nel pieno della sequenza sismica, la cautela ovviamente deve essere massima. Grazie a Gilberto Saccorotti, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Noi intanto ridiamo la linea a Valentina Furlanetto. Dalle agenzie leggo che cominciano ad essere evacuati anche altre strutture di altri paesi che fino a questo momento non abbiamo neanche citato. A me, Valentina, vanno gli occhi su queste notizie perché conosco bene quelle aree, essendo di là. Vedo Sarnano, una bella località turistica appunto marchigiana, dove addirittura poco fa sarebbe stato evacuato anche un centro che ospita disabili. Ma per le ultime notizie ti do la linea. Grazie Deborah. Sì, in effetti tutte zone turistiche in questo momento affollate di persone che erano in villeggiatura. Scene drammatiche nel centro storico di Amatrice, con i paramedici che stanno cercando proprio in questi minuti di salvare un bambino di 6 anni dalle macerie di una casa completamente distrutta. E sempre ad Amatrice un convitto delle scuole è crollato, al momento risultano disperse 3 suore, 4 anziani ospiti, disperse in un centro per rifugiati anche 2 ragazze afghane, decine le abitazioni crollate, come abbiamo sentito dal sindaco nell'ultima testimonianza che abbiamo raccolto, quindi purtroppo saranno decine i dispersi e le vittime. Al momento accertate 5 vittime ad Amatrice. Ad Accumoli si scava con le mani nude per cercare le persone sotto le macerie, in particolare 4 dispersi, una giovane coppia e i loro 2 figli. I vigili hanno chiesto l'ausilio anche di una termocamera per evitare di scavare alla cieca. A rimuovere i massi c'è un escavatore privato. Vistosi crolli anche nella piazza centrale San Francesco presso la stazione dei Carabinieri. Sono crollati inondate le abitazioni e un bar. In alcuni punti si sono aperte delle voragini che hanno inghiottito delle auto e si sta allestendo un campo dove gli sfollati passeranno la prossima notte probabilmente. A Pescara del Tronto ci sono 10 vittime accertate, 8 nella frazione, 2 in case sparse nel circondariato, e come avevi detto tu poco fa, un altro bambino proprio a Pescara del Tronto è stato estratto vivo dalle macerie. In questa cittadina, dove il fratellino di questo bimbo di 4 anni era stato estratto vivo anche lui qualche ora fa. La Protezione Civile si tiene prudente sulle cifre, sui numeri delle vittime. Secondo il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, tutte le aree principali risultano raggiunte dai soccorsi. Certamente ci sono difficoltà, ma sono stati mandati anche degli elicotteri. Ci sono degli appelli, quello del sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci, dice: abbiamo bisogno di generi di prima necessità da tutta Italia, siamo completamente scollegati. Poi la Croce Rossa Italiana che chiede di lasciare libere le strade di accesso alle zone colpite dal sisma, di non intralciare i soccorsi anche con le linee telefoniche e cellulari. Infine l'Avis di Rieti: serve sangue di tutti i gruppi sanguigni per aiutare i feriti. Siete interessati, se siete disponibili, portate il documento di identità, il codice fiscale, dalle 8 alle 11 all'ospedale dell'Ellis di Chieti. Infine il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sta seguendo chiaramente la situazione tornando a Roma da Palermo, e questo riferisce il Quirinale. Per altri aggiornamenti torniamo a collegarci fra meno di 10 minuti. Deborah, ma ti lasciamo la linea chiaramente per tutte le testimonianze che riesci a riportare e per le notizie. Infatti ho aperto i microfoni, grazie Valentina, ti aspettiamo tra poco. Ai nostri ascoltatori, ne abbiamo sentiti poco fa due, la testimonianza drammatica di Sabatino che da Roma provava a raggiungere Amatrice, dove in una casa di riposo, in un convento di monache appunto, era ospite la sua mamma, è terrorizzato perché dalla notizia sentite appunto che questo edificio è crollato, le monache erano sotto, vittime appunto di questo crollo, con anche alcuni degli anziani ospiti. Noi speriamo che naturalmente che tutti potessero essere salvati, che possano essere salvati, che non ci fosse la mamma di questo signore, lo vedremo. E poi abbiamo sentito anche un altro ascoltatore da Bergamo che ci ha raccontato, essendo un volontario appunto della Protezione Civile, come funziona in genere la macchina dei soccorsi in circostanze drammatiche come quella di questa notte. Quindi poi, a prescindere dalle polemiche, ci sono tempi tecnici, ci sono coordinamenti che si mettono in moto, e farlo in situazioni come quella di questa notte naturalmente è tutto molto difficile. Peraltro zone già di difficile raggiungimento in tempi normali, in questo periodo anche animati da molti turisti appunto che sono lì, perché sono zone peraltro anche molto belle, e quindi insomma è tutto più difficile di sempre, come se poi chiaramente un sisma si possa raccontare con termini semplici. Detto questo, possiamo dire sì, forse Paolo Corleoni, adesso prenderci 30 secondi di pausa perché c'è un po' di pubblicità, tra poco. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto, grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital radio. Il suono perfetto. DAB+. Anche Radio 24 è in digital radio. Gli speciali di Radio 24. Oltre ai soccorsi con i mezzi della Protezione Civile, anche il 118 ha attivato elicotteri e mezzi su gomma a supporto. Questo è quanto ha reso noto la Regione Lazio poco fa. Intanto ci sono anche i numeri del contact center della Protezione Civile. Io magari li do, non so se a chi servono possa essere in grado in questo momento di prenderne nota. La Protezione Civile risponde a questo numero: 800 840 840. C'è poi anche il numero della sala operativa della Protezione Civile del Lazio, 803 555. Lo trovate naturalmente anche su internet per chi ne avesse bisogno di avere informazioni da questi canali. E poi c'è anche il nostro, è l'800240024. Abbiamo aperto questa mattina anche le testimonianze a voi ascoltatori e per adesso ne abbiamo preso qualcuna di interessante: un volontario della Protezione Civile e una persona che stava provando a spostarsi verso Amatrice, che si raggiunge con grande difficoltà. Peraltro proprio la Croce Rossa poco fa, ma anche altri centri appunto di soccorso stanno continuando a raccomandare ovviamente di non provare a raggiungere queste zone se non strettamente necessario, intanto perché molte strade sono bloccate, perché è inutile spostarsi sul posto se naturalmente si ha solamente l'intenzione di andare magari a dare comprensibilmente anche una mano, ma è bene non farlo appunto se non si è protagonisti magari di qualche struttura accreditata e autorizzata. E quindi ribadiamo anche questi messaggi che ovviamente tutte le strutture appunto di pronto soccorso stanno continuando naturalmente ad esprimere. Poi c'è anche Enel in campo per far fronte alle conseguenze sulla rete elettrica dello sciame sismico che ha colpito il centro Italia, perché immaginiamo che anche quella comincerà a diventare nelle prossime ore un'emergenza. Immaginate solamente cosa vuol dire per tutti coloro che ne hanno bisogno: non poter utilizzare computer, non poter utilizzare anche i telefoni che cominceranno a scaricarsi. È per questo che anche noi stamattina stiamo razionando al massimo appunto i collegamenti telefonici, anche se ovviamente ci interessa avere le testimonianze sul campo dei nostri colleghi che sono lì, ma siamo tornati comunque a sentire Daniele Morini, che nel frattempo ha raggiunto San Benedetto del Tronto. Mi hanno detto male, Daniele, o sei lì? Pescara del Tronto. Pescara del Tronto. Siamo appena arrivati, purtroppo la situazione è veramente, veramente difficile. Ci sono due strade di accesso a questo piccolo borgo che si alza di qualche centinaio di metri sulla vecchia Salaria. È completamente crollato, raso al suolo. Stiamo vedendo di fronte a noi, vengono portati via dei feriti. Ci sono bambini appoggiati lungo il bordo della strada, da soli, stanno aspettando chi i nonni, chi i genitori, ma non sanno se potranno rivederli, almeno a breve, perché veramente si sono piani su piani accatastati l'uno sopra l'altro. Noi vediamo in questo momento, oltre appunto alla Protezione Civile, le ambulanze che fanno la spola con gli ospedali, sicuramente verso Rieti, ma sicuramente anche verso Ascoli Piceno. Vediamo, stanno arrivando proprio nuovi uomini dei soccorsi speleo, probabilmente il soccorso alpino e speleologico, insieme con i vigili del fuoco, insieme con la Protezione Civile. Le strade per arrivare sono spaccate a metà longitudinalmente e noi stiamo salendo appunto su queste strade e stanno quasi, sembra che si stiano per staccare da un momento all'altro e scivolare giù verso la Salaria. La situazione è veramente molto molto difficile. Ci sono, Daniele, non so, ambulanze, le vedi? Perché sai che qua appunto non siamo presi. Assolutamente certo. Sì, noi siamo qui da 10 minuti ed hanno già portato via persone estratte da sotto le macerie. Abbiamo visto due bambini di 5-6 anni, il più piccolo di 7-8 anni, il più grande, già medicalizzati, che stanno aspettando, purtroppo nel loro caso stanno aspettando i nonni, che non sono ancora usciti, e insomma, è una situazione molto difficile. Daniele, siamo proprio a due passi dalle squadre che stanno operando. Scusate il fiatone, ma sto proprio salendo la china per arrivare accanto. Vedo una struttura collassata completamente, molto alta, molti piani probabilmente, e le squadre speleo che stanno arrampicandosi su per le macerie. Travi, porticati, piani, solai, tutto crollato. E tutto questo è il paese che si vede dalla Salaria, appunto. Tutto è tutto così, non ci sono, almeno dalla nostra posizione, non vediamo edifici in piedi. Questa è la situazione, sta arrivando acqua per i soccorritori e per i soccorsi appena estratti dalle macerie, stanno montando scale con elmetti, zaini, verricelli e l'attrezzatura minima appunto dei gruppi speleo, stanno cercando di raggiungere le macerie. e raggiungere soprattutto le persone che si trovano sotto le macerie, perché a giudicare dalle macerie che ci troviamo davanti si parla di diversi piani che si sono accatastati fra loro, come vi dicevo. Io per il momento vi restituirei la linea. Grazie, non so se Daniele. No, no, noi ti abbiamo preso fino a... Sì, dici? Sì, in diretta per Radio 24. Che gruppo siete? Cosa state? No, sono un volontario. Un volontario che arriva da dove? San Benedetto del Tronto. Fai parte di gruppi speleo, vi abbiamo visto con i caschetti. No, vabbè, io faccio alpinismo così per passione, quindi ho preso la mia attrezzatura e sono venuto. Ti dicono che di cosa c'è bisogno, com'è la situazione qui a Pescara del Tronto? Drammatica, ci mancano ambulanze, ci manca l'acqua arrivata, il paese è raso al suolo, cioè non c'è niente sopra, tutto distrutto. Qua vediamo solo un ammasso di macerie, com'era il paese qui sopra? Com'era prima? Com'era, insomma, no. Che cosa si vedeva prima di questo ammasso di macerie? C'erano edifici? C'erano tutte case, era un borgo medievale classico qui dell'Ascolano, ecco. Tipo Arquata, tipo Acquasanta. Mi confermi che da qui qui si sarebbero registrate 3 vittime, almeno da quello che si dice? Io non lo so, vittime non ho visto da quando sono arrivato un bambino che è stato portato via, un signore anziano, poco fa è sceso una famiglia, un padre, una madre, una bambina, ma camminavano da soli, perciò io vittime non ho viste. Cioè, ho saputo stamattina 5 che le prime vittime appunto venivano da qua, ma non ne ho viste di persone, ho visto solo salvataggi. Grazie, buon lavoro. Daniele, grazie, ecco, a te per la testimonianza che ci hai reso disponibile, appunto. Ti lasciamo, proviamo a ricollegarci con te più tardi. Intanto chiedo alla regia, appunto, se adesso abbiamo. Sì, abbiamo intanto un ascoltatore in diretta che sentiremo subito dopo. Ridiamo la linea intanto a Valentina Furlanetto. Sì, un breve flash, Deborah, per aggiornarvi sulle ultime notizie. Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, a Decino, ha detto che sono decine le vittime, tantissimi sono sotto le macerie, stiamo allestendo, ha detto, un luogo per le salme, quindi sarebbero già decine le vittime ad Amatrice, uno dei comuni più colpiti, come abbiamo sentito. Anche nell'altro comune, a Cumuli, ci sono almeno 6 vittime. Gli appelli sono molti, uno di questi è quello lanciato poco fa da Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, che ha chiesto di lasciare libera la Salaria, ha chiesto alle persone che si fermano, ai curiosi che si fermano, di lasciare sgombera la strada, perché le forze dell'ordine sono mobilitate e i soccorsi sono mobilitati per raggiungere le aree colpite e salvare delle vite. Da registrare anche dal punto di vista più istituzionale l'SMS del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha mandato il Governatore delle Marche per assicurare la solidarietà al Governo, dalla comunità marchigiana duramente colpita dal terremoto. Sappiamo che da Palazzo Chigi è stato mobilitato anche l'esercito. Fra le poche notizie positive è quella di un bambino che è stato fortunatamente estratto vivo dalle macerie a Pescara del Tronto, un altro bambino, il fratello del ragazzino che era stato estratto vivo questa mattina del quale tu ci avevi dato, tra l'altro, sì, notizia. Quindi un piccolo barlume di speranza in un scenario catastrofico, come sentiamo. Cercheremo di aggiornarvi ulteriormente alle 10 e continuerai ovviamente a farlo tu, Deborah. Sì, grazie. Uno scenario catastrofico a dir poco, ce lo ha raccontato molto bene Daniele Morini, che poco fa ha raggiunto Pescara del Tronto, e anche lui con grande fatica ci stava provando a descrivere lo scenario che gli si è parato davanti agli occhi al suo arrivo. Bambini seduti per terra in silenzio, quasi un po' ci ha richiamato alla memoria un po' la faccia del bambino di Aleppo di cui tanto si è parlato in questi giorni. Adesso ci abbiamo anche noi i nostri bambini qua sotto un cataclisma, sotto un sisma, molti bambini peraltro come quelli che sono stati salvati poco fa, che erano ospiti anche delle case dei loro nonni, comunità che peraltro sono molto spesso e volentieri animate quasi esclusivamente dagli anziani, con i figli che se ne vanno magari nelle grandi città appunto del centro Italia o altrove. Si ritorna sempre qua per le vacanze, molto spesso proprio i bambini passano le loro vacanze estive con i nonni in queste aree, fino poi a dover affrontare emergenze di questo tipo. Allora, noi abbiamo il traffico adesso, abbiamo Francesca di Radio Traffico, abbiamo un collegamento oggi più lungo del solito, proprio perché naturalmente ci fermeremo per qualche secondo in più a raccontare proprio qual è la situazione della viabilità delle aree colpite dal sisma, con tutte le raccomandazioni del caso naturalmente a non mettersi assolutamente in viaggio in questi posti se non strettamente necessario. Gli speciali di Radio 24. Uno speciale questa mattina che potete già facilmente immaginare a quale argomento sia dedicato. Siamo in onda da questa mattina presto e dalle 8 con questo lungo speciale dedicato appunto al sisma che questa notte ha colpito l'Italia centrale. Morti e feriti, un bilancio che si continua ad aggiornare, oltre 20 le vittime complessive che sarebbero state registrate nelle zone appunto dell'epicentro del sisma, a Cumoli in provincia di Rieti, Amatrice, Pescara del Tronto, Arquata del Tronto, queste le zone tra Lazio, Umbria, Marche che sono appunto state colpite, un epicentro di magnitudo 6.0 che alle 3.36 con un sisma registrato a 4 km di profondità ha sconvolto di nuovo questa zona già duramente colpita in passato nel 2009 con il drammatico sisma dell'Aquila e in precedenza ancora con tutto quello che era successo in Umbria. Inutile richiamare alla memoria adesso i drammi del passato, affrontiamo la situazione in questo momento con tutte le testimonianze che abbiamo raccolto fino a questo momento. L'ultima che vi abbiamo proposto è stata quella del nostro Daniele Morini, appunto, che è riuscito a raggiungere Pescara del Tronto e ci ha raccontato di questo scenario apocalittico che gli si para davanti agli occhi. Ha visto anche tanti bambini in silenzio seduti ai bordi delle strade, naturalmente lontani anche dalle macerie, perché qua, come ci spiegava anche prima il sismologo, naturalmente quando si verifica un terremoto di questa intensità è ovvio che arrivino altre scosse di assestamento successive, dinamiche che peraltro noi in Italia, una zona molto rischiosa appunto, conosciamo già molto bene, per cui anche tutti coloro che sono già fuori dalle loro case non sanno neanche dove potersi posizionare. Intanto chiaramente tutti i sindaci sono in piena emergenza, il più colpito anche con le sue dichiarazioni è il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, che continua a raccontare come intanto anche il paese si stia accingendo, lo ha detto poco fa, dall'estino al luogo per le salme. Ad Amatrice fino a questo momento le vittime accertate sarebbero una decina, complessivamente, almeno secondo quanto ci dice adesso SkyTG24, sono almeno 22 i morti accertati complessivamente. Allora, volevo sentire, noi abbiamo aperto le linee della nostra radio anche ai nostri ascoltatori e abbiamo Rocco da Rimini. Rocco, speriamo di poterle dare un'indicazione utile, facciamo fatica anche noi ad immaginare come poterla aiutare, però provi a lanciare questo suo messaggio e vediamo cosa, se si muove qualcosa. Rocco, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, sì, io chiamo perché siccome noi ad esempio siamo una ditta di trasporti che ci occupiamo di grandi opere come la variante di valico tra Firenze e Bologna, quindi abbiamo mezzi, abbiamo escavatori, abbiamo pale, abbiamo camion, ma come noi che ci vorremmo muovere per prestare dei soccorsi non abbiamo nessuno che ci possa coordinare, non è che c'è qualcuno che, certo, ci dice qualcosa. Rocco, secondo me lei quello che può fare è rivolgersi intanto alla protezione civile della sua città, che a sua volta poi potrà coordinarsi con quella regionale, di conseguenza con quella nazionale. La prima cosa che mi viene in mente, ma in totale non conoscenza appunto dell'argomento, quindi la prima indicazione che mi viene da darle è assolutamente di buon senso. Provi la Croce Rossa, che magari ha bisogno anche di trasportare qualcosa e ha bisogno di un suo mezzo, quindi la Croce Rossa del posto, della sua città, e poi la protezione civile più vicina a lei. Al limite, come abbiamo già detto prima, c'è anche un numero verde a cui la Protezione Civile Nazionale risponde in queste ore, magari adesso provo a ripescarlo il numero, ma in ogni caso appunto provi a cercare lei quello che è più vicino appunto alla sua città. Immagino che abbiano assolutamente bisogno di tutto l'aiuto possibile e anche appunto di mezzi, ruspe e camion in primo luogo. Quindi speriamo di aver dato appunto una risposta concreta al nostro amico Rocco. Nel frattempo abbiamo richiamato Elisabetta Fiorito da Roma. Sì, buongiorno. Allora Deborah, ci sono subito delle reazioni, perché la Protezione Civile del Lazio dice che non c'è stato nessun ritardo, la macchina dei soccorsi si è attivata subito, e pur avendo scontato i ritardi dovuti al fatto di arrivare in una zona di montagna con la viabilità sconvolta, raggiungere ogni singola frazione è difficile, ma il sistema è ormai completamente dispiegato. Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, dice anche che è arrivato in questo momento ad Amatrice: sono qui per dare la mia vicinanza e la presenza agli straordinari operatori dei soccorsi e ai volontari che si adoperano per salvare vite. Tutte le forze dell'ordine sono mobilitate per questa incredibile catastrofe. Bisogna lasciare libera la Salaria, lo ricorda anche Zingaretti, no ai curiosi. Quindi insomma, Renzi ha anche mandato un SMS di solidarietà e offerta di altri arrivata da altri governatori alle Marche per assicurare la solidarietà e il sostegno del governo alla comunità marchigiana duramente colpita dal terremoto e anche alle altre comunità. Ecco, quindi c'è la prima smentita che è appunto sul fatto che i soccorsi, la macchina dei soccorsi si è mossa velocemente. Questo è importante. E poi Nicola Zingaretti, che è arrivato da Amatrice, presidente della Regione Lazio, ha detto il centro di Amatrice non esiste più, quindi ha dato conferma di quello che poi avevano detto durante il corso della trasmissione Deborah tutti i nostri colleghi. Esatto. Vorrei raccomandare anche una cosa ai nostri colleghi che si occupano del palinsesto: se magari potessimo evitare lo spot che sta andando in onda in queste ore sugli agenti di commercio alla matriciana, che ci sembra veramente di cattivo gusto. Magari adesso chiamiamo anche il nostro responsabile del palinsesto pubblicitario, se lo togliamo. Scusatemi, ma mi sono sentita anche almeno di esprimere questo commento. Intanto, un uomo di 65 anni è stato estratto vivo dalle macerie di una delle abitazioni crollate ad Accumoli. Secondo quanto riferiscono fonti sanitarie, il recupero è avvenuto in un altro punto rispetto a quello dove si sta cercando la famiglia composta da una giovane coppia e due bambini. Ne stiamo parlando da questa mattina. Sul posto sono al lavoro escavatori. L'impiego della ruspa si alterna con le ricerche a mani nude svolte da squadre dei vigili del fuoco e dal soccorso alpino e speleologico della Guardia di Finanza. Intanto, peraltro, qualcuno ha anche provato a capire se all'Aquila si fossero sentite, ovviamente si sono certamente sentite le scosse di questa notte, ma se si fossero paradossalmente registrati anche dei danni, pare di no. Il comune ha comunicato che dopo vari sopralluoghi condotti dai tecnici del comune dell'Aquila la situazione nel centro storico rimane tranquilla, invariata, non si segnalano danni a persone e strutture. Squadre della protezione civile della Basilicata sarebbero pronte a partire, questo tanto per confermare quanto ormai la mobilitazione totale sia partita in tutta Italia. Questo è un annuncio dato dal presidente di questa regione, Marcello Pittella. Allora, io direi che a questo punto siamo pronti a fermarci. Ritorneremo di nuovo in onda con un'altra ora di diretta e di speciale di Radio 24, appunto, sul terribile terremoto che nella notte ha colpito l'Italia centrale. Adesso abbiamo però ulteriori aggiornamenti che arriveranno dalla redazione del giornale radio. Mi fermo, a tra pochissimo. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Dalla Brexit all'immigrazione dall'Europa alla Cina, dall'Iraq a Molenbeek, tutti i temi più caldi dell'estate in un'ora di grande attualità internazionale. E poi le analisi e i racconti dei grandi eventi del nostro tempo. Risorse e materie prime, ambiente, cultura, letteratura, religione. Al di là degli stereotipi e senza censure. Voi andate pure in vacanza, il mondo ve lo raccontiamo noi. Sono Giampaolo Musumeci, anche quest'anno, zaino in spalla, ho viaggiato e indagato storie e fenomeni. Ora riaccendo il microfono per raccontarveli. Se anche voi pensate che nessun luogo è lontano, vi aspetto tutti i giorni alle 16, qui su Radio 24. In un'epoca che vuole la mediocrità, è giusto rischiare per valorizzare il proprio talento? In Italia ci sono 1.600 bambini a cui è stata uccisa la mamma. Chi si prende cura di loro? I cinesi si salutano a caso o si riconoscono? Viaggio nel mondo degli stereotipi. Sono le domande che ci poniamo a spunti di vista, tutte le angolature dell'attualità. Sono Irene Zerbini, vi aspetto il sabato alle 8 e la domenica alle 7:15, naturalmente qui su Radio 24. Gli speciali di Radio 24. Eccoci di nuovo in diretta dopo il giornale radio, interamente dedicato naturalmente alla cronaca degli ultimi minuti, al terremoto, alla tragedia che si è abbattuta di nuovo sul centro Italia, sull'Italia centrale, morti e feriti fra accumuli, fra la provincia di Rieti nel Lazio, ma anche nella provincia di Ascoli Piceno, tra Pescara del Tronto, Arquata del Tronto, le zone più colpite dal sisma di questa notte, un sisma di magnitudo 6.0 che alle 3.36 a 4 km di profondità appunto ha sconvolto questa zona che ripetutamente negli ultimi anni è stata duramente colpita, una zona ad elevato rischio sismico, lo sappiamo bene, un problema che riguarda il nostro paese, ma c'è un accanimento evidentemente in questa area che ci colpisce tutti profondamente. Stiamo continuando a leggere le notizie che naturalmente arrivano dalle agenzie con questo bilancio delle vittime che si aggiorna continuamente, con le squadre di soccorso che cominciano ad essere inviate da ogni parte d'Italia. Ovviamente c'è anche l'azione di coordinamento della Protezione Civile, poi il provvedimento d'urgenza che è stato varato proprio poche ore fa dal governo per conferire piena delega all'intervento alla Protezione Civile, al coordinamento naturalmente di tutto il soccorso necessario per fronteggiare questa situazione. Carmine Lizza, responsabile nazionale della Protezione Civile di ANPAS, sta coordinando i soccorsi. Lizza, ci racconti che cos'è questa vostra organizzazione? Buongiorno. Esattamente, esatto, buongiorno. Ecco, che cosa state facendo esattamente? Se avete bisogno di qualcosa, facciamo tutte le raccomandazioni del caso, lanciamo tutte le notizie che è necessario dare. Lizza. Ok, noi siamo un'associazione di volontariato presente su tutto il territorio nazionale con oltre 100.000 volontari attivi. Siamo una delle strutture portanti dell'intervento della Protezione Civile Nazionale Dipartimento, con 3 moduli attivi, attivabili di assistenza alla popolazione. E al momento noi siamo stati impegnati dalle primissime fasi subito dopo l'evento sismico, sia nella ricognizione dei danni, insomma è stato abbastanza problematico reperire tutte le informazioni in tempi brevissimi, anche se poi diciamo la situazione è apparsa purtroppo nella sua gravità. Allo stato attuale abbiamo delle squadre impegnate con state dando ai soccorsi, con le unità cinofile per il soccorso diciamo diretto, il soccorso sanitario direttamente sulle macerie. Avete raggiunto località precise, Liz, al momento? Sì, siamo su delle località dove ci sono stati i crolli. Quindi Pescara del Tronto, Arquata del Tronto, Accumoli Amatrice. Siamo su Accumoli, su Amatrice e su Arquata del Tronto. E spesso ci sono le immagini in diretta che inquadrano anche i nostri volontari, che sono quelli con le divise rosse, e in stretto collegamento con i vigili del fuoco per il recupero delle persone rimaste diciamo coinvolte nei crolli. E quindi la documentazione in pratica sarebbe meglio che la realizzaste voi effettivamente, perché siete anche dotati dell'abbigliamento adatto, come dire, sì, in queste fasi è importante essere preparati, essere formati e soprattutto indossare indumenti idonei, perché sono delle situazioni molto molto particolari dove il minimo errore può costare caro anche purtroppo ai soccorritori. Quindi quante forze avete mobilitato fino a questo momento, Lizza? Allora, in questo momento sono una quarantina i volontari attivi sull'area, diverse ambulanze, perché ne facciamo anche il soccorso sanitario con il 118, unità cinofile. E stiamo predisponendo l'invio dei primi moduli di assistenza alla popolazione, quindi in un lavoro di raccordo tra tutte le forze che abbiamo in tutti i comitati regionali, abbiamo già definito diciamo le squadre per il primissimo intervento per il montaggio dei campi, per il montaggio del campo per il momento e per il montaggio di altri eventuali campi, e anche chiaramente la programmazione delle turnazioni per i prossimi, per i prossimi giorni. Crediamo insomma che l'emergenza non si chiuderà sicuramente in qualche giorno, no, quindi ecco, abbiamo già predisposto diciamo, le squadre per delle turnazioni di qualche settimana. Senta, Lisa, ci dia un suggerimento, no? Perché prima ci ha chiamato un ascoltatore da Rimini che dice ha un'azienda e può mettere a disposizione dei soccorsi ruspe e camion. Per esempio, voi potreste essere un interlocutore adatto per raccogliere questo appello di questo ascoltatore, o è meglio che non lo faccia? No, le strutture diciamo operative, le imprese possono dare la loro disponibilità, se non già inserite nel sistema dei soccorsi, possono dare la disponibilità direttamente alle regioni e ai comuni coinvolti, i quali poi in base alle esigenze, alle disponibilità diciamo verranno contattati ed attivati per eventuali urgenze. Comunque una delle difficoltà che abbiamo incontrato purtroppo è stata la viabilità, che purtroppo è saltata. Abbiamo avuto delle squadre, dei cinofili ferme al confine tra Abruzzo e Umbria per delle frane che ingombravano la sede stradale, quindi poi c'è stato l'intervento del genio militare che ha risolto il problema. E purtroppo questi tipi di eventi, questo tipo di eventi in Appennino, un po' tutto l'Appennino, diciamo in tutto l'Appennino da nord a sud, una delle maggiori difficoltà purtroppo sono anche le vie di comunicazione. Esatto. Da dove avete fatto partire i vostri soccorritori? Voi qual è la vostra sede operativa centrale? Allora, noi abbiamo la sede centrale operativa, la sede operativa nazionale a Firenze, però abbiamo sedi operative di protezione civile in tutte le regioni d'Italia. E nel nostro modulo di intervento, per una, diciamo, una logicità dell'intervento stesso, attiviamo le risorse immediatamente disponibili più vicine all'evento. Chiaramente ci sono i volontari e le associazioni che sono già presenti sul territorio colpito dal sisma e quelle di default lavorano con i comuni, con la regione e con l'EASL per il 118. Dopodiché noi inviamo a seguire delle squadre diciamo di persone formate via via dai territori più vicini, e intendiamo più vicini calcolando il tempo per raggiungere l'evento, quindi non è semplicemente una distanza chilometrica. E noi abbiamo inviato delle squadre immediatamente dalla regione Abruzzo e dal Lazio. Per il momento sono attive già squadre dalle Marche, sì, e dalla Toscana in pronta partenza. Poi a cascata anche da Bolzano alla Sicilia abbiamo squadre pronte ad intervenire. Che cos'ha di diverso questa situazione drammatica che si sta manifestando in queste ore nel centro Italia rispetto ad altre sulle quali siete intervenuti, Lizza? Allora, rispetto alle ultime situazioni che si sono verificate, quindi l'Aquila, l'Emilia Romagna, ci sono, diciamo la macchina dell'intervento è stata sicuramente potenziata. Infatti il Dipartimento Nazionale, lo Stato, dopo l'intervento, dopo il terremoto del 2009, ha inteso potenziare le colonne mobili nazionali delle grosse organizzazioni di volontariato. Quindi insieme a noi ci sono gli Alpini, le Misericordie e qualche altra sigla. E quindi sicuramente c'è un'efficienza maggiore per quanto riguarda la risposta in caso di evento. Però il vero progresso che si è fatto in questi anni è sul tema della prevenzione. Noi come ANPAS siamo quelli che poi in effetti hanno proposto una grossa campagna di prevenzione che si chiama Io non rischio, non so se ne ha sentito parlare. Io non rischio è una grossa campagna di prevenzione, di informazione ai cittadini di cosa si può fare prima di un evento, quindi dal punto di vista strettamente diciamo non soltanto dei comportamenti ma anche dal punto di vista culturale, e quello che si fa durante purtroppo l'evento e quello che bisogna fare subito dopo un evento sismico. E questa comunicazione è importante, è fatta dai cittadini. Quest'anno la campagna che si terrà a metà ottobre coinvolge oltre 700 piazze, quindi ci saranno diverse migliaia di volontari che scenderanno in piazza, nelle piazze italiane, in oltre 700 dicevo, e faranno campagna di informazione ai cittadini su quello che soprattutto si può fare prima di un evento sismico, cioè conoscere la propria abitazione, conoscere il proprio piano di protezione civile, stimolare che questo piano abbia un senso e sia diffuso tra tutti i cittadini, perché buona parte dei comuni d'Italia hanno il piano di protezione civile, però molti di questi comuni purtroppo non diffondono le norme che stanno all'interno del piano di protezione civile, quindi è come di fatto non averlo, quindi deve essere un patrimonio collettivo. Questa campagna importante, che è una campagna che purtroppo ha dei tempi lunghi per essere attiva e per avere i suoi risultati migliori, è al quinto anno di edizione. In tanti territori, diciamo, si nota, per esempio nella zona del Pollino, la campagna Io non rischio, che abbiamo avuto modo di fare prima dell'evento del novembre di qualche anno fa, ha dato i suoi frutti, perché abbiamo fatto un'estesa campagna di informazione e formazione ai cittadini sui piani, sui norme comportamentali, cosa, dove raggiungere i posti di primo soccorso e via discorrendo. Quindi ci sono sicuramente dei notevolissimi passi in avanti. Quello che non cambia purtroppo è la vulnerabilità dei nostri edifici, nonostante ci siano delle misure, siano state attivate delle misure importanti con lo PCM 3907 e il 4007 a seguito del terremoto dell'Abruzzo, che vanno nella direzione di maggiori studi, certo, di microzonazione sismica, di messa in sicurezza, ecco, delle proprie abitazioni. Lizia, un'altra cosa che non cambia invece è sempre questa voglia di far partire subito le polemiche immediatamente dopo la partenza dei soccorsi sui tempi entro i quali, perché poi tutti diventiamo, no? Certo. È un po' come commissari tecnici della Nazionale di Calcio, diventiamo tutti protagonisti, certo, e i responsabili della protezione civile in queste circostanze. Ma le chiedo appunto anche in queste prime battute, poi io lascerei anche abbastanza rapidamente tutta la questione delle polemiche, ma secondo lei esiste un tempo giusto per far partire i soccorsi? Un'emergenza che si scatena con una scossa di terremoto alle 3:36 di notte, qual è il tempo ragionevole entro il quale la macchina dei soccorsi deve mettersi in moto tutta a partire allora, l'unico tempo, diciamo, utile è la prevenzione. Tutto quello che viene dopo la prevenzione, cioè il momento in cui noi interveniamo anche in 10 secondi, abbiamo sbagliato qualcosa. Quindi la macchina, quindi il tempo preciso, il tempo, diciamo, che deve cominciare ad essere nelle nostre menti è quello della prevenzione, cioè preoccuparsi prima, quindi occuparsene prima, perché un evento del genere di magnitudo 6, con tutte le caratteristiche, diciamo, sismiche dell'evento, profondità focale abbastanza ridotta, energia abbastanza elevata in superficie e tutto il resto, sono, diciamo, delle situazioni abbastanza fronteggiabili se sono affrontate nella misura giusta. Mm-hmm. Nella misura giusta significa comportamenti dei cittadini, quindi prevenzione non strutturale, ma anche prevenzione strutturale. Cioè le nostre abitazioni devono cominciare ad essere costruite nella maniera più giusta. Mm-hmm. E ancora purtroppo oggi non è patrimonio della nostra cittadinanza, insomma dei nostri cittadini, pretendere la sicurezza delle proprie abitazioni, al pari di quello che facciamo ormai di prassi per le nostre automobili. Tutti quando acquistano una casa non badano alla sicurezza sismica della struttura, non badano magari nemmeno all'efficienza energetica, ma magari alla piastrella di lusso piuttosto che alle qualità estetiche. Dovremmo cominciare a pretendere, lo possiamo fare, la normativa, le NTC, le norme tecniche per le costruzioni prevedono questo, è una norma di tipo prestazionale, non prescrittiva, quindi il committente deve chiedere ai progettisti il livello di sicurezza a cui tendere per la propria abitazione. Purtroppo per ora è un salto generazionale di qualità che non riusciamo ancora a fare. La campagna Io non rischio sta cercando di fare questo. Avremo modo di parlarne e ne parleremo dopo, purtroppo, aver superato questa nuova drammatica emergenza che sta colpendo il nostro paese. Intanto Lizia, buon lavoro per le prossime ore, i prossimi giorni. Carmine Lizia, responsabile nazionale della protezione civile di ANPAS, che sta coordinando i soccorsi appunto dei propri uomini sulle aree devastate dal sisma di questa notte nel centro Italia. Nel frattempo, siccome, come vi anticipavo, abbiamo anche aperto il microfono ai nostri ascoltatori, adesso ne sentiremo qualcuno, ma intanto vorrei continuare con voi a leggere qualche aggiornamento dalle notizie che stanno arrivando dalle zone del sisma. C'è il capo dipartimento della protezione civile, Fabrizio Curcio, che si sta recando insieme al ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio nelle zone colpite dal sisma di stanotte. L'elicottero, con a bordo anche personale del dipartimento, atterrerà ad Amatrice a breve. Amatrice, lo ricordiamo, è uno dei comuni più colpiti dal terremoto che stanotte ha devastato il centro Italia, tra l'Abruzzo, le Marche, l'Umbria e il Lazio. Il comitato operativo della protezione civile resta riunito intanto in seduta permanente a Roma. E nel frattempo tutti i comuni, tutte le regioni d'Italia dichiarano la loro disponibilità naturalmente a garantire se necessario mezzi e uomini per le attività di soccorso appunto nelle zone colpite dal sisma. C'è una mobilitazione nazionale enorme e poi naturalmente la sensazione invece in queste aree che i soccorsi non arrivino abbastanza rapidamente, ma insomma di questo abbiamo già avuto modo di parlare dall'inizio di questo nostro speciale. Poi le strutture aeroportuali portuali delle regioni interessate dal sisma di questa notte non hanno per fortuna riportato danni, sono tutte operative. Questa notizia, questa rassicurazione è stata fatta poco fa dall'ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile, che partecipa al tavolo della protezione civile che è stato convocato proprio per la gestione di tutte le operazioni di soccorso. Allora, tra l'altro tra un po' vorremmo collegarci anche con qualche funzionario dell'Avis, perché come sapete in questa situazione di emergenza si richiede anche la disponibilità di sangue, e però anche questa è un'azione di raccolta. Noi con Nicoletta Carbone abbiamo fatto anche trasmissione su questo, che va fatta sotto uno stretto coordinamento, quindi non si può andare alla prima sede Avis che conosciamo per dire voglio donare sangue per le vittime del terremoto del centro Italia. Anche questa è un'azione che va effettuata sotto uno stretto coordinamento, e poi allora faremo anche tutte le dovute raccomandazioni anche su questo punto. Nel frattempo, prima abbiamo commentato a lungo appunto l'iniziativa che vogliono provare a prendere anche molte persone, di dare il proprio contributo per cercare appunto di sostenere quanto possono queste popolazioni colpite dal sisma. Abbiamo raccontato la testimonianza dell'ascoltatore di Rimini che ha ruspe e camion e vorrebbe mettere a disposizione ma non sa a chi rivolgersi. Noi gli abbiamo detto guarda, prova a chiamare la protezione civile del tuo comune o anche la Croce Rossa. C'è Cosimo da Brindisi che invece vuole darci un suggerimento ulteriore, quindi noi lo raccogliamo volentieri. Cosimo, benvenuto, 800 24 00 24 per chi volesse intervenire in diretta. Cosimo, eccoci a lei. Buongiorno. Buongiorno. Per tutta la gente che vuole dare una mano, si rivolga alle prefetture della propria città. Sì. C'è un ufficio, tutte le prefetture hanno un ufficio per la protezione civile. E quindi insomma lei dice la prefettura è il luogo più vicino a noi. Tutte per le prefetture eventualmente d'Italia hanno un ufficio per la protezione civile. E quindi tutta bisogna la gente che vuole mettere a disposizione mezzi, manodopera, di quello che c'è bisogno, lo fa, si rivolga alle prefetture. Grazie Cosimo, grazie mille. Intanto vedo anche un po' di movimento in redazione, vediamo tra poco quale altro contributo possiamo mandare in onda. E allora intanto leggevo anche che naturalmente tutti i politici, soprattutto quelli particolarmente vicini per prossimità alle aree colpite dal sisma, stanno annullando tutti gli impegni pubblici evidentemente per cercare di capire che contributo dare alle azioni di soccorso e di intervento. Il sindaco di Roma Virginia Raggi alle 10.30, quindi tra pochissimo, incontrerà in Campidoglio la protezione civile, vigili del fuoco, vigili urbani, anche per fare il punto sul terremoto e sull'altra emergenza che riguarda Roma, che è quella degli incendi. Alcune aree del Lazio saranno presenti, il vice sindaco, tutti gli assessori. Sono stati annullati appunto gli appuntamenti, il sindaco Raggi, previsti in giornata. C'è un'altra notizia che mi colpisce in questo momento e che sto leggendo, c'è addirittura di qualche testimonianza drammatica di una donna che racconta che suo marito si sarebbe buttato dalla finestra con una figlia per salvarla, una delle sopravvissute al sisma che ha distrutto Pescara del Tronto, che è la frazione di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno, fra le zone più colpite dal sisma di stanotte, e dopo essere riuscita a lasciare il piccolo centro insieme ai familiari. Continuano ad arrivare intanto in questi centri sempre più persone che vorrebbero dare una mano, ma anche qui lo abbiamo detto più volte, ci stiamo raccomandando anche di non fare di non prendere delle iniziative avventate, che naturalmente non è necessario andare a mettere in confusione ulteriore già i soccorritori ufficiali di queste situazioni, perché si complica ulteriormente la situazione. Intanto sto dando un'occhiata anche ai siti dei principali quotidiani italiani. Leggo con voi la prima pagina del Corriere della Sera: terremoto 6.0 devasta il centro Italia, il primo bilancio è quello di 21 morti e più di 100 dispersi. È stato drammatico, lo abbiamo sentito anche noi più volte la testimonianza, l'appello, il commento del sindaco di Amatrice che dice: nel mio paese non c'è più nulla, è stato mobilitato l'esercito, c'è una diretta ovviamente che è partita inevitabile su tutti i social network, l'urlo dell'infermiera: scappate fuori tutti a Pescara del Tronto. Poi si continua a raccontare che tra le vittime ci sono anche due bambini. Spazzata via dal sisma, Pescara del Tronto, 10 i morti, una cittadina duramente colpita, insieme appunto ad Amatrice, diverse le persone che continuano ad essere presumibilmente intrappolate. Poi un sisma che è stato ovviamente paragonato per potenza ed estensione a quello dell'Aquila del 2009, sono stati sentiti molti sismologi naturalmente, e ne abbiamo sentiti anche noi alcuni che ci hanno raccontato come questa sia una zona nota evidentemente per la sua pericolosità, e le scosse che si sono registrate nella notte sono state appunto paragonate per intensità a quelle dell'Aquila. Il terremoto è stato superficiale, a 6 km di profondità, un dettaglio che può apparire di poca cosa, ma in realtà è un dettaglio fondamentale, molto importante, perché una profondità di questo tipo fa sprigionare al sisma un'energia tale che non riesce ad attenuarsi, si sprigiona con tutta la sua forza fino a provocare appunto la situazione che stiamo continuando a raccontare. Ad Amatrice è crollato l'ospedale, malati e barelle per strada, ci si aspetta molti feriti. Ad Amatrice poi si parla appunto naturalmente anche di persone che si estraggono per fortuna vive dalle macerie. È anche molto difficile naturalmente poter raccontare dal microfono di una radio. Io leggo ed interpreto insieme a voi tutte le notizie che stanno arrivando. C'è poi anche un ascoltatore che prova a mettersi in contatto con noi e che dice: Pescara del Tronto non ha niente a che vedere con Pescara, non l'hanno mai detto, ma noi speriamo massimo che si sia capito che stiamo parlando qua invece di un'area in provincia appunto di Ascoli Piceno. Sto provando a capire anche, ecco, se dalla regia mi arrivano delle notizie. No, io sto continuando appunto a leggere con voi le notizie che leggo dalle agenzie. Anche molte agenzie appunto che, oltre a fare resoconto appunto di cronaca con i giornalisti sul posto, registrano anche dei video, come per esempio fa Asca News. Le immagini da Amatrice, uno dei centri più colpiti dal sisma che ha devastato il Rietino, le prime ruspe lavorano fra le macerie dei palazzi sventrati, i primi sopravvissuti che emergono dal disastro. C'è un'anziana signora stordita, un signore barcollante, aiutati a scendere appunto dalle macerie. Voi potete immaginare appunto come è difficile anche descrivere uno scenario di questo tipo. Nel frattempo, sì, è arrivata anche di nuovo dalla redazione Valentina Fullanetto. Sì, Deborah, siamo ancora qui per aggiornarvi su quello che sta accadendo. Nel frattempo i nostri corrispondenti dalla zona colpita dal sisma, lo ricordiamo questa notte, questo sisma terribile, 6.0 magnitudo, alle 3.36 la prima scossa e poi ne sono seguite almeno due forti, ha provocato numerose vittime. Non c'è ancora un bilancio preciso, il portavoce della Croce Rossa e la Protezione Civile tengono molta prudenza sulle vittime, ma possiamo dirvi che sono almeno 10 le vittime del terremoto a Pescara del Tronto, dove tra l'altro è stato estratto vivo un secondo bambino e anche una persona, un adulto di 65 anni. Si scava a mani nude anche ad Accumoli, l'altro comune che è stato colpito fortemente dal sisma, e 4 sono i dispersi sotto le macerie. Stesso scenario terribile anche ad Amatrice, scene drammatiche nel centro storico con i paramedici che cercano di salvare le vite sotto le macerie, fra cui anche un bambino che poco fa sembra che sia stato salvato. Il convito delle suore è stato colpito, anche diverse di queste monache e degli anziani ospiti di questo convito sono sotto le macerie. A Pescara del Tronto alcune persone si sono salvate lanciandosi dalla finestra. Questa è una delle ultime notizie notizie che ci arrivano dalle agenzie e dai nostri corrispondenti. Un sopravvissuto ha raccontato di essersi lanciato dalla finestra con la figlia per salvarsi dal sisma. Nel frattempo anche le istituzioni si muovono. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si è tenuto dalle prime ore del giorno in stretto contatto con la Protezione Civile, sta tornando a Roma da Palermo, e questa è la notizia che arriva dal Viminale. Ci sono diversi appelli, tra cui quello dell'Avis, che ha chiesto a tutte le persone nell'area di Rieti di recarsi all'ospedale di Rieti per donare il sangue di tutti i gruppi sanguigni. Quindi c'è un allarme molto importante per quanto riguarda la carenza di sangue nei terremoti dell'area. Negli ospedali dell'area, tra l'altro, l'ospedale dell'area di Accumoli è stato danneggiato fortemente, e quindi ci sono problemi anche per i feriti. E per il momento, Deborah, è tutto, a te la linea. Noi ci fermiamo, adesso abbiamo un po' di pubblicità per prenderci qualche secondo di pausa. Fra un po' vi racconto anche cosa succede oggi sui mercati finanziari, poi torniamo al sisma della notte. A volte basta accendere la radio per ritrovarsi comodamente seduti al cinema. Sa perché mettono le maschere d'ossigeno sull'aereo? Per poter respirare. L'ossigeno ti fa sballare. Una storia speciale che assomiglia un po' a un film, un po' a un romanzo e un po' a un ricordo personale è qualcosa di unico che può arrivare solamente attraverso la radio. Ehi, bentornato a casa, Vic. Grazie. Che effetto fa la libertà? Piacevole. Sembra niente, ma è proprio così. Audiogrammi Reloaded. Una storia come non l'avete mai ascoltata. Di Paolo Corleoni e Laura Faggin. Sabato alle 15 e domenica alle 23 su Radio 24. E in podcast su radio24.it. Gli speciali di Radio 24. Ed eccoci ritrovati in diretta con i nostri aggiornamenti che vi stiamo garantendo da questa mattina molto presto. Tutti ci siamo svegliati con un preda l'ansia per questo nuovo dramma che sta riguardando il nostro paese e tutte le conseguenze di questa nuova fortissima scossa di terremoto magnitudo 6.0, tutte quelle che ne sono seguite poi di aggiustamento. Forte scossa che nella notte ha colpito l'Italia centrale con epicentro a Cumoli in provincia di Rieti, e poi tutte le altre zone colpite. Amatrice, l'appello drammatico del sindaco che continua ancora a dire è una cittadina, un paese raso al suolo. E poi Arquata del Tronto, Pescara del Tronto e tutte le zone appunto comprese fra Rieti, Ascoli Piceno e non solo. Una scossa che si è sentita naturalmente non solo in tutto il centro Italia, ma l'hanno sentita anche in un'area più estesa. Intanto appunto stiamo continuando a leggere insieme a voi tutte le notizie che stanno arrivando dalle agenzie, con naturalmente il consueto punto della situazione che riguarda anche le vittime, oltre 20. Vedo anche altre notizie che stanno campeggiando da Sky TG24 insieme alle agenzie. Un'altra donna estratta viva dalla macerie a Pescara del Tronto. E poi c'è tutta la questione che riguarda naturalmente le varie tipologie di soccorso che devono essere garantite in queste ore, anche l'emergenza sangue. Allora, intanto, prima di sentire gli esponenti Avis che abbiamo raggiunto, vorrei riprovare invece a sentire Daniele Morini, che è il nostro corrispondente che ha raggiunto le zone. Ricordaci, Daniele, dove sei e come sta procedendo la situazione. È anche molto difficile ovviamente farti delle domande precise, per cui ti lascerei direttamente il microfono, Daniele. Noi siamo a Pescara del Tronto. Prima, nel precedente collegamento, stavamo cercando di salire verso il paese, ma la nostra prospettiva era veramente limitata perché la strada era invasa completamente, la stradina che sale dalla vecchia Salaria era invasa completamente dalle macerie di alcuni edifici, quindi abbiamo deciso di scendere più lungo la Salaria e lungo il fiume Tronto, di fatto, che corre lungo la Salaria, per avere una visione di questo paese. Avevamo detto oltre una trentina di case, si vede nella sua drammaticità che cosa è successo qui. Il paese non esiste più, sono pochissime le facciate, 3 o 4 che rimangono in piedi su case che magari non hanno però il retro o hanno il tetto che è completamente crollato e collassato su se stesso. Si sentono dei rumori molto sinistri, le ruspe che stanno scavando, le persone che a mani nude tirano via pietre, tirano via tegole, coppi, perché ancora ci sono persone sotto. Non è nemmeno facile fare un bilancio. No, è impossibile, immaginiamo, certo. Esatto, non è nemmeno possibile. Qui quando siamo arrivati erano 3, quando in questo momento circolano voci, si parla di 8, forse 10 vittime solo qui a Pescara del Tronto. Però non per strada con la gente non riusciamo a verificare, riusciamo a toccare il polso. Abbiamo davanti a noi una famiglia, adesso non vogliono parlare ai microfoni, una famiglia che arrivava da Nola, sono arrivati domenica per vivere qualche giorno di riposo qui in mezzo ai Monti Sibillini, in una casa che era la casa paterna della signora. Si erano portati una bimba, la loro figlia, e l'altra consuocera, diciamo. Sono usciti da soli togliendo pietre, sono rimasti sotto l'abitazione crollata. Il papà con la bambina si è gettato dalla finestra mentre la casa stava crollando, la moglie ha scavato a mani nude vedendo uno spiraglio delle prime luci che arrivavano sul paese ed è riuscita ad uscire, e la consuocera, la suocera, diciamo, della signora è stata soccorsa, è stata estratta dai primi soccorritori. Non vi dico in che condizioni stanno, ricoperti di polvere, però sono felicissimi per essere salvi. Questo è quello che si respira qua. Ogni tanto, a proposito di polvere, si alza una nuvola di polvere. La montagna che sta sotto al paese sta scivolando letteralmente verso la strada e verso il fiume. Siamo a pochissimi chilometri, credo nemmeno una decina, da Accumoli, che è appunto l'epicentro, il paesino che è l'epicentro di questo terremoto. Questa è la situazione al momento, continuano ad arrivare squadre, forse troppo poche ancora per le necessità di questo paese, che è letteralmente accatastato su se stesso, lo vediamo accartocciato ormai, su se stesso, sì. Esatto, nitidamente dalla vallata, dove peraltro in un campo d'erba qui si ogni tanto arrivano elicotteri dei vigili del fuoco, delle ambulanze, protezione civile e quant'altro, che sorvolano anche il paese proprio a pochi metri di altezza per capire l'entità. Ecco, ne sta arrivando un altro proprio in questo momento, che atterrano proprio qui accanto alla nostra postazione di questo Daniele, hai avuto la sensazione di avvertire qualche altra scossa fra quelle che presumibilmente dovrebbero, sono già arrivate, arriveranno, di assestamento in tutto questo normale processo di appunto assestamento territoriale che arriva dopo scosse di violenza così, così importante, oppure addirittura impossibile sentire anche queste, tale è l'emergenza? Diciamo che non si percepiscono perché i rumori sono tanti, ma si vedono dei piccoli o granelli di polvere che si alzano o che cadono appunto lungo il versante che sorreggeva il paese e che adesso sta crollando tutto a valle. C'è un equilibrio veramente instabile, ci sono dei ponti vecchi, antichi che sorreggevano questo borgo medievale, che adesso stanno letteralmente sopportando il peso del paese crollato sopra i ponti. Mi sembra una situazione veramente molto molto precaria. Hai avuto modo, ma me l'avresti raccontato, di capire dov'è il sindaco Stefano Petrucci, come sta provando a gestire adesso questa drammatica condizione in cui versa il proprio paese? Hai intenzione di provare a raggiungerlo? Come intendi muoverti anche un po' per testimoniare quello che accade a Pescara del Tronto, Daniele? Sì, guarda, ci sono 2 vie di accesso a questo paese, lungo la che si staccano dalla Salaria e salgono su verso il costone montuoso, diciamo. Noi abbiamo provato prima a salire sulla prima, adesso siamo scesi a valle per capire l'entità di quello che ci avevamo davanti ai nostri occhi, perché in quel modo vicini non riuscivamo veramente a capire lo sguardo d'insieme, e adesso stiamo provando a salire dall'altra parte, dove si stanno concentrando, forse una strada più agevole, si stanno concentrando i soccorsi, o meglio gli ingressi e le uscite dei soccorsi. Come probabilmente sentite, ecco, anche in sottofondo sta atterrando proprio qui accanto a noi un elicottero che ancora non vedo, mi sembra un'eliambulanza, ecco, sta sputando dagli alberi mentre altre ambulanze stanno percorrendo la Salaria. No, sono vigili del fuoco, sono gruppi teleo alpino fluviali dei vigili del fuoco, probabilmente. Ecco, quindi insomma... Abbiamo visto prima che mi sembra che alcuni venivano verricellati proprio dagli elicotteri sopra il paese, sopra le parti più distrutte del paese. C'era la probabilmente o qualcuno veniva calato o qualcuno veniva recuperato. Daniele, grazie ancora una volta per queste tue testimonianze che ci danno veramente un po' la sensazione di essere lì con te. Ti lasciamo ancora continuare a lavorare, a cercare informazioni, a monitorare da vicino appunto l'entità di questo dramma, ma lo abbiamo capito perfettamente, la montagna che sta sotto il paese scivola lentamente. Ci ha regalato questa immagine Daniele Morini da Pescara del Tronto, a 10 km da Accumuli, l'epicentro del sisma di questa notte, un sisma di magnitudo 6.0, 4 km di profondità, e proprio per questa profondità che è ritenuta dagli esperti molto piccola, molto bassa, ha permesso al sisma di sprigionare tutta la sua incredibile potenza al punto da provocare una devastazione che è quella che vi stiamo raccontando. 22 le vittime accertate fino a questo momento, in un bilancio che è inevitabilmente destinato a salire. Si continuano ad estrarre ancora persone dalle macerie, per fortuna anche ancora in vita. Peraltro proprio poco fa si è appreso che a Pescara del Tronto, questa frazione di Arquata del Tronto dove si trovava il nostro Daniele Morini, una delle zone più colpite dal terremoto, sono state estratte vive dalle macerie decine di persone dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato, mentre la forestale ha rinvenuto ad Arquata del Tronto due corpi esanimi, questi i bilanci che continuano ad essere diramati anche dalle agenzie. Regolare l'erogazione dell'acqua potabile nelle zone terremotate delle Marche, lo garantiscono anche le società che naturalmente gestiscono anche questo. Intanto leggiamo anche di altre organizzazioni di intervento che continuano a dire che mentre i soccorsi sono ancora in corso sono anche molti i lamenti che si sentono sprigionare appunto dalle macerie. Voi pensate anche la frustrazione delle persone che stanno provando ad intervenire, che continuano a percepire lamenti provenire da sotto i detriti, se sentono i telefonini fatti squillare dai dispersi per aiutare nella localizzazione. Chi è impegnato nelle ricerche, immaginate in quali condizioni anche emotivamente drammatiche i soccorritori stanno lavorando. Adesso vado alla questione dell'emergenza sangue, ma intanto ritorniamo a Valentina Furlanetto alle novità degli ultimi minuti. Sì, fra le novità, le istituzioni che sono pronte ad aiutare le regioni e i comuni colpiti, segnaliamo subito l'Unione Europea, il commissario europeo agli aiuti umanitari e alla gestione della crisi Sialides su Twitter in italiano ha sottolineato di monitorare attentamente l'impatto del terremoto in Italia, porge le condoglianze e la vicinanza alle famiglie delle vittime e assicura che l'Unione Europea è pronta ad aiutare. Anche la CEI si muove, la presidenza della CEI dispone un immediato stanziamento di 1 milione di euro dai fondi dell'8 per mille per far fronte alle prime urgenze e ai bisogni essenziali, e inoltre la CEI indice una colletta nazionale da tenersi in tutte le chiese italiane il prossimo 18 settembre per aiutare appunto i bisogni concreti delle popolazioni colpite. Si fa anche un primo bilancio delle vittime. Il sindaco di Accumoli poco fa ha parlato di 4 morti e 8 dispersi nel comune che è stato fortemente colpito. Fra i morti anche una famiglia con 2 figli. Il sindaco ci aveva detto nelle prime ore di questa mattina che questa famiglia si trovava sotto le macerie della propria casa. Intanto la forestale che sta lavorando con i vigili del fuoco e con le altre con i volontari della protezione civile ha comunicato di aver estratto vive decine di persone a Pescara del Tronto, dove abbiamo assistito anche questa mattina all'estrazione vivi per fortuna di 2 fratellini che sono stati salvati dalla nonna. E queste sono le ultime notizie per quanto riguarda la cronaca. Deborah, ci riaggiorniamo, certo, tra circa un quarto d'ora. Grazie. Peraltro naturalmente sotto stretta osservazione in queste ore anche le condizioni della viabilità in quelle zone, per cui oggi è più che mai importante ascoltare gli aggiornamenti del traffico. Gli speciali di Radio 24. E proseguiamo con gli speciali di Radio 24, lo speciale ovviamente monotematico, il sisma che nella notte ha colpito il centro Italia, Amatrice, Accumoli, Pescara del Tronto, le zone più colpite, paesi rasi al suolo, è il dramma che si sta consumando, le difficoltà per i soccorritori perché queste sono zone appunto di difficilissima accesso e raggiungimento. Appunto, allora, anticipavamo prima che in queste ore, in circostanze di questo tipo, in emergenze di questo tipo, l'altra emergenza che parte immediatamente è quella di soccorso delle vittime e di richiesta naturalmente di sangue, ma anche lì qualche volta si parte un po' all'arrembaggio senza le dovute necessarie informazioni. Io saluto e ringrazio per essere con noi Vincenzo Saturni, presidente dell'ABIS nazionale, componente del comitato direttivo del Centro Nazionale Sangue. Ho detto tutto correttamente, presidente? Sì, sì, perfetto, buongiorno, grazie mille. Le faccio sentire, presidente, anche la testimonianza di un suo collega che è Fulvio Viceré, presidente dell'AVIS e della Regione Lazio. Abbiamo un piccolo contributo che poi chiedo anche a lei di commentare. AVIS Lazio anche in questa occasione chiama in una situazione di emergenza i donatori abituali e persone che non si sono mai avvicinate alla donazione. Questa è una dimostrazione che l'Italia c'è ancora una volta e una dimostrazione di vicinanza verso le popolazioni colpite dal terremoto di questa notte. Dove si può donare? Allora, i cittadini del Lazio che abitano nel territorio di Rieti, che è la zona colpita per quanto riguarda il Lazio, possono andare presso il servizio trasfusionale della città di Rieti. I cittadini che vivono nella città di Roma possono andare nei servizi trasfusionali o nelle sedi associative più vicine al proprio domicilio, per cui non si deve spostare il donatore, ma si sposterà il sangue nelle necessità eventuali dai servizi ad altri servizi, per cui la donazione deve essere fatta in tutta tranquillità. È una dimostrazione ancora una volta di vicinanza a persone meno fortunate di noi. Non affrettiamo la donazione, non la limitiamo a un solo giorno, ma cerchiamo di organizzare una donazione programmata almeno per i prossimi 15 giorni. È una situazione abbastanza grave. Donare è una semplicissima attività, è un gesto così semplice, ma anche in questo caso può veramente essere utile. Andate tutti a donare. Presidente Saturni, ovviamente un messaggio totalmente condivisibile, ma soprattutto soffermiamoci sul fatto che è il sangue che si sposta, non è il donatore che in questo momento deve recarsi ad Amatrice o a Pescara del Tronto o ad Accumoli nei paesi colpiti dal sisma. Anche questa azione lodevole deve essere sottoposta al più stringente coordinamento. Presidente Saturni. Sì, assolutamente, devo dire che il Centro Nazionale Sangue, in accordo con le associazioni e quindi sotto la supervisione del Ministero, ha proprio recentemente varato un piano per le emergenze che comprendono ovviamente anche situazioni come queste o come quelle che sono verificate nel mese scorso con l'incidente ferroviario in Puglia, proprio per garantire che nel momento in cui succedano delle disgrazie come quelle accadute questa notte, per il terremoto, la disponibilità di sangue per gli ammalati che eventualmente ne avrebbero bisogno ci siano, proprio perché c'è un sistema a rete che allerta le associazioni che a loro volta allertano i donatori per la donazione e che consente attraverso le strutture regionali di coordinamento di far afferire, qualora sia necessario, un surplus insomma di disponibilità di sangue, questo prezioso elemento terapeutico per chi ne avesse bisogno. Per cui per noi quello che è importante è sicuramente essere vicino alle popolazioni, perché come cittadini prima di tutto ovviamente, ma come associazione di volontariato che siamo al servizio di chi ha bisogno, ovviamente esprimiamo prima di tutto una vicinanza con queste popolazioni duramente colpite. Invitiamo la popolazione a rispondere alle chiamate delle associazioni e i donatori di non andare a intasare le sedi già provate dal terribile sisma, ma far riferimento alla propria associazione di riferimento, alla struttura trasfusionale vicino a dove abitano, proprio per mettersi a disposizione, seguendo però quelle che sono indicazioni, perché spesso ci può essere, come dire, l'aspetto emotivo dell'immediato dopo tragedia, quando noi sappiamo che invece necessità di sangue proseguiranno nelle settimane successive, certo. E poi di questa donazione abbiamo bisogno costantemente. Tra l'altro, Presidente, mi segnalano dalla redazione i nostri autori che proprio ad inizio luglio avete firmato l'intesa, la conferenza Stato-Regioni sul piano strategico nazionale, esatto, per il supporto trasfusionale nelle maxi emergenze. Cosa vuol dire? Esatto, è proprio quello che accennavo all'inizio. Cioè che il Centro Nazionale Sangue, in accordo appunto con le associazioni e poi ovviamente con l'iter ministero e accordo Stato-Regioni, ha previsto la possibilità che possano verificarsi purtroppo delle maxi emergenze o naturali o, ci auguriamo di no, anche non naturali, vedi fenomeni di terrorismo o quant'altro, che possano necessitare una disponibilità immediata o nell'immediato post-evento sangue in una o più zone del territorio italiano. E quindi si è prevista la possibilità di far convergere in quella sede le unità già disponibili nelle strutture trasfusionali italiane e poi allertare di conseguenza i donatori per fare in modo che il supporto trasfusionale sia per le condizioni di normalità per tutti gli ammalati che ne hanno bisogno indipendentemente da eventi tragici o emergenze, ma nello specifico per l'emergenza che si fosse verificata non ci siano carenze di supporto trasfusionale. Presidente, perché sì. Per noi preferiamo, se possibile, prevenire, quindi mettere a disposizione comunque questo sistema rete che è molto attivo sul territorio italiano, dove Avis, che è presente in oltre 3.000 sedi, ovviamente gioca un ruolo importantissimo, per non trovarci in un'emergenza drammatica, almeno per quel che riguarda la disponibilità di sangue. Quante volte è stata richiamata, Presidente, questa parola questa mattina in questo nostro lunghissimo speciale? Prevenzione riguarda anche voi, ma ne abbiamo parlato soprattutto per quello che riguarda le caratteristiche degli edifici crollati, certo, sotto il peso del sisma stanotte. Complimenti per il vostro lavoro, Presidente, in bocca al lupo per i prossimi giorni, grazie, perché di voi ci sarà molto bisogno. Sì. Grazie. Grazie, arrivederci. Allora, sì, possiamo provare a sentire a questo punto, direi, il portavoce della Croce Rossa Italiana, Tommaso Della Lunga, in attesa intanto magari poi collegamenti con Protezione Civile, quadro istituzionale, con Leonardo Rossi e Chiara Piselli, li facciamo più avanti, tanto continuiamo ad andare avanti, fra un po' c'è anche il giornale radio. Noi dovremo chiudere fra 3 minuti, riusciamo a mandare in onda, Paolo, questo file? Sì. Sentiamo il portavoce della Croce Rossa Italiana. La situazione è ovviamente una situazione difficile, adesso diciamo le squadre di soccorso sono ormai arrivate da un bel po' di tempo, la priorità è trovare i sopravvissuti. Le raccomandazioni sono quelle che stanno girando insomma da qualche ora sia su internet che insomma tramite i canali ufficiali, cioè di non mettersi in viaggio sulla via Salaria se non strettamente necessario per non fermare la macchina dei soccorsi. E la stessa cosa sull'utilizzo della rete delle comunicazioni, i cellulari, non sovraccaricarla. Allora, tra un po' ridiamo la linea al giornale radio. Intanto, in questo drammatico bilancio che continua ad aggiornarsi, i morti sono a questo punto 23, una bambina di pochi mesi, probabilmente 9, è stata estratta morta dalle macerie della casa della famiglia, crollata nel centro di Arquata del Tronto. Lo hanno fatto sapere i vigili del fuoco del posto, una bambina che era nell'abitazione con i due genitori che invece sono stati estratti ancora vivi dalle macerie. Ci fermiamo, c'è il giornale radio, noi continuiamo con il nostro speciale subito dopo.